Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. La locanda della tormenta presenta Conan, le gemme di Gwalior. Buon ascolto. 1. Gli strapiombi si ergevano perpendicolari dalla giungla, torreggianti bastioni di pietra che luccicavano di un azzurro giada e di un cremisi scuro nel sorgere del sole, e si allontanavano incurvandosi verso est e verso ovest, sopra l'ondeggiante oceano smeraldino di fronde e di foglie. Sembrava insormontabile quella gigantesca palizzata dalle ripide cortine di roccia compatta, in cui frammenti di quarzo ammiccavano abbacinanti nella luce solare. Ma l'uomo che li stava salendo era già a metà della scalata. Discendeva da una razza di montanari, abituati a espugnare vette proibitive, ed era dotato di forza e agilità eccezionali. Indossava soltanto un paio di corte brache di seta rossa e teneva i sandali appesi sulla schiena insieme alla spada e al pugnale perché non li intralciassero. Era un uomo poderoso, agile come una pantera. La pelle era abbronzata dal sole, la nerissima criniera era trattenuta sulla fronte da una fascia d'argento. I ferrei muscoli, gli occhi pronti e i piedi sicuri, gli tornavano assai utili, perché la scalata era tale da mettere a dura prova queste qualità. 50 braccia sotto di lui ondeggiava la giungla. Una distanza uguale lo separava ancora dall'orlo degli strapiombi, profilato contro il cielo mattutino. Si muoveva come se fosse spronato dalla necessità di affrettarsi. Tuttavia era costretto a procedere con la lentezza di una lumaca, aggrappandosi alla parete come una mosca. Le mani e i piedi cercavano e trovavano fessure e sporgenze che offrivano appigli precari, e qualche volta virtualmente si teneva sospeso solo con le unghie. E tuttavia continuava a salire, lottando per ogni spanna che guadagnava. Talora sostava per riposare i muscoli doloranti. Deterso il sudore dagli occhi, girava la testa per scrutare la giungla, cercando in quella distesa verde una traccia di vita umana o di movimento. Ormai la sommità non era molto lontana. Poche braccia al di sopra della testa scorse una fenditura nella pietra scoscesa. Dopo un istante la raggiunse. Una piccola grotta, immediatamente al di sotto del ciglio del precipizio. Quando sollevò la testa oltre l'orlo, emise un grugnito. Rimase aggrappato con i gomiti agganciati sullo spigolo di pietra. La grotta era minuscola, poco più di una nicchia scavata nella roccia. Ma era occupata. C'era una mummia bruna, in carta pecorita, con le gambe incrociate e le braccia conserte sul petto e la testa reclinata. Le membra erano legate da sottili strisce di cuoio grezzo ormai imputridite. Se un tempo quella figura era stata coperta da indumenti, gli anni li avevano ormai ridotti in polvere. Ma tra le braccia conserte e il petto incavato era infilato un rotolo di pergamena, cui il tempo aveva conferito il colore dell'avorio ormai vecchio. L'uomo tese il braccio e strappò via il rotolo. Senza esaminarlo, se l'infilò nella cintura e si issò, piazzandosi in piedi nell'imboccatura della nicchia. Con un balzo si afferrò il ciglio dello strapiombo e salì con un movimento agile. Poi si fermò ansimando e guardò in basso. Era come guardare l'interno di un'immensa conca orlata da un muro circolare di pietra. Il fondo della conca era coperto d'alberi e di vegetazione più fitta, sebbene meno densa della foresta esterna. Gli strapiombi la circondavano senza interruzione ad altezza uniforme. Era un capriccio della natura che forse non aveva uguali in tutto il mondo, un immenso anfiteatro naturale, un frammento circolare di pianura coperto dalla foresta, del diametro di 3 o 4 miglia, isolato dal resto del mondo e racchiuso nell'anello di quei precipizi. Ma l'uomo non pensava stupirsi di quel fenomeno topografico. Con tensione ansiosa scrutò le cime degli alberi e sospirò ansimante quando scorse lo scintillio delle cupole di marmo tra il verde. Non era un mito, dunque. Sotto di lui stava il favoloso palazzo abbandonato di Alcmenon. Conan il Cimmero, già delle isole Baraka, dalla Costa Nera e di molte altre terre selvagge, era giunto nel regno di Kheshan seguendo le tracce di un tesoro favoleggiato il cui valore oscurava persino quello del re di Turan. Il Kheshan era un regno barbaro nell'entroterra orientale del Kush, dove le grandi praterie si fondevano con le foreste del meridione. Gli abitanti appartenevano a una razza mista. I nobili dalla pelle scura dominavano una popolazione costituita in prevalenza da neri di sangue puro. I dominatori, principi e sommi sacerdoti, affermavano di discendere da una razza bianca che in tempi mitici aveva governato un regno la cui capitale era Alcmenon. Leggende contrastanti cercavano di spiegare la ragione della decadenza di quella razza e dell'abbandono della città da parte dei superstiti. Non meno nebulose erano le leggende che parlavano dei denti di Gwalhur, il tesoro di Alcmenon. Ma quelle dicerie erano bastate per condurre Conan nel Kheshan, attraverso immense distanze di pianura, giungle percorse da fiumi e montagne. Aveva trovato il Kheshan, che molte nazioni nordiche e occidentali consideravano mitico, e aveva sentito abbastanza per confermare le leggende del tesoro che gli uomini chiamavano denti di Gwalhur. Ma non era riuscito a scoprirne il nascondiglio e si era trovato di fronte al problema di dover spiegare la sua presenza nel Kheshan. Gli stranieri solitari non erano graditi in quella terra, ma Conan non si era lasciato sconcertare. Con fredda sicurezza aveva offerto i suoi servigi ai maestosi, impennacchiati e sospettosi potentati di quella corte barbara e magnifica. Era un combattente professionista. Era venuto nel Kheshan, disse, in cerca di un ingaggio. Dietro compenso avrebbe addestrato gli eserciti del Kheshan e li avrebbe guidati contro il Punt, il loro nemico ereditario, i cui recenti successi sul campo avevano destato il furore dell'irascibile re del Kheshan. La proposta non era audace, come potrebbe sembrare. La fama di Conan l'aveva preceduto perfino in quella terra lontana. Le sue imprese come capo dei pirati neri, i lupi delle coste meridionali, avevano reso celebre, ammirato e temuto il suo nome in tutti i regni dei neri. Conan non rifiutò le dimostrazioni richieste dai nobili dalla pelle bruna. Le scaramucce lungo i confini erano incessanti e permisero al Cimmero di dare prova della sua abilità nei combattimenti corpo a corpo. La sua ferocia temeraria colpì favorevolmente i signori del Kheshan, che già conoscevano la sua reputazione di condottiero e le prospettive parvero lusinghiere. Segretamente Conan aspirava solo a un ingaggio che gli fornisse un pretesto legittimo per restare nel Kheshan il tempo necessario a individuare il nascondiglio dei denti di Gwalhur. Poi ci fu un'interruzione. Nel Kheshan, alla testa di un'ambasceria dello Zimbabwei, giunse Tutmekri. Tutmekri era un ostigiano, un avventuriero che con la sua astuzia... Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B! Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Aveva trovato favore agli occhi dei re gemelli del grande regno ibrido, situato parecchi giorni di marcia verso est. Lui e il Cimmero si conoscevano da tempo e non si amavano. Anche Tutmekri aveva una proposta da rivolgere al re del Kheshan, e anche quella riguardava la conquista del Punt. il regno situato a est del Keshan e che di recente aveva espulso i mercanti dello Zembabwei e aveva bruciato le loro fortezze. L'offerta del nuovo venuto ebbe la meglio anche sul prestigio di Conan. Tutmekri si impegnava a invadere il Punt dall'est con un esercito di lancieri dalla pelle nera, gli arcieri scemiti e di spadaccini mercenari e di aiutare il re del Keshan ad annettersi quel territorio ostile. I benevoli sovrani dello Zembabwei chiedevano soltanto il monopolio del commercio del Keshan e dei suoi tributari. E quale pegno di buona fede alcuni dei denti di Gwa'alur. Non sarebbero stati sfruttati malamente, si affrettò a spiegare Tutmekri ai sospettosi potentati locali. Anzi, sarebbero stati collocati nel tempio di Zembabwei, accanto ai tozzi idoli aurei di Dagon ed Erketo, come ospiti sacri del santuario del regno, per suggellare il patto tra Zembabwei e Keshan. Quell'affermazione fece spuntare un feroce sogghigno sulle dure labbra di Conan. Il cimmero non tentò di gareggiare in astuzia e intrighi con Tutmekri e il suo socio scemita, Zargheba. Sapeva che se Tutmekri l'avesse spuntata, avrebbe chiesto con insistenza il bando immediato dal rivale. C'era una sola cosa che Conan poteva ancora fare: trovare le gemme prima che il re del Keshan prendesse una decisione e fuggire portandosele con sé. Ormai era certo che non erano nascoste a Keshia, la capitale reale, formata da uno sciamo di casupole dai tetti di paglia che si affollavano intorno a un muro d'argilla, nel quale era racchiuso un palazzo di pietra, di creta e di bambù. Mentre Conan smaniava per l'impazienza, il sommo sacerdote Gorulga annunciò che prima di pervenire a una decisione era necessario accertare la volontà degli dei per quanto riguardava la proposta d'alleanza con lo Zembabwei e il pegno di oggetti da molto tempo ritenuti sacri e inviolabili. Si doveva consultare l'oracolo di Alcmenon. Era una prospettiva temibile che mise in moto le lingue nel palazzo e nelle catapecchie. Da un secolo intero i sacerdoti non si recavano a visitare la città silenziosa. L'oracolo, si diceva, era la principessa Yelaya, ultima sovrana di Alcmenon, morta nel pieno fiore della gioventù e della bellezza, e il cui corpo era rimasto miracolosamente intatto in tutto quel tempo. Anticamente i sacerdoti si erano recati in quella città incantata e Yelaya aveva insegnato loro la sapienza. L'ultimo sacerdote che aveva consultato l'oracolo era stato un uomo perverso che aveva cercato di rubare e di tenere per sé le gemme stranamente intagliate che la gente chiamava denti di Gwa'alur. Ma la fine l'aveva colpito nel palazzo deserto. I suoi accoliti, fuggiti in tutta fretta, avevano riferito storie di orrore che per 100 anni avevano dissuaso gli altri sacerdoti dall'avvicinarsi di nuovo alla città e all'oracolo. Ma Gorulga, il sommo sacerdote attuale, fiducioso nella certezza della propria onestà, annunciò che sarebbe andato con una piccola scorta di seguaci a far rivivere l'antica consuetudine. E nello scalpore che seguì l'annuncio, molte lingue diffusero particolari indiscreti. Conan captò così l'indizio che attendeva da settimane: il sussurro di un sacerdote di grado inferiore che indusse il cimero a uscire furtivamente da Keshia la notte prima della partenza del corteo. Cavalcando quasi senza sosta per una notte e un giorno e anche un'altra notte, all'alba Conan giunse davanti agli strapiombi di Alcmenon, situati nell'angolo sud-occidentale del regno, in mezzo a una giungla disabitata che era tabù per gli uomini comuni. Soltanto i sacerdoti osavano avvicinarsi alla valle infestata. Gli altri si arrestavano a parecchie miglia di distanza. E neppure un sacerdote entrava ad Alcmenon da 100 anni. Nessuno, dicevano le leggende, aveva mai scalato quelle rocce e solo i sacerdoti conoscevano l'entrata segreta della valle. Conan non perse tempo a cercarla. I precipizi che scoraggiavano quelle popolazioni nere, formate da cavalieri ed abitanti delle pianure e delle foreste, non erano impossibili per un uomo nato tra gli scoscesi monti della Cimmeria. E adesso, dalla sommità dello strapiombo, Conan scrutava la valle circolare e si chiedeva quale pestilenza o guerra o superstizione avesse scacciato i membri di quell'antica razza bianca dalla roccaforte nella giungla, spingendoli a unirsi alle circostanti tribù nere e a lasciarsene assorbire. La valle era stata la loro cittadella. Là sorgeva il palazzo dove aveva dimorato soltanto la famiglia reale con la corte. La città sorgeva all'esterno degli strapiombi. le masse ondeggianti della verde giungla ne nascondevano le rovine. Ma le cupole che brillavano tra le fronde sotto di lui erano le sommità intatte del palazzo reale di Alcmenon, che aveva sfidato la corrosione degli anni. Conan scavalcò il bordo di roccia e scese rapidamente. La parte interna della conca era più accidentata, ma assai meno ripida. In metà del tempo che aveva impiegato a salire, il cimero raggiunse il verdeggiante fondovalle. Con la mano sull'elsa della spada si guardò intorno vigile. Non c'era motivo di ritenere che gli uomini mentissero quando affermavano che Alcmenon era deserta, abitata solo dagli spettri del lontano passato. Ma Conan era cauto e sospettoso per natura. Il silenzio era sepolcrale. Sui rami non stormiva una foglia. Quando si chinò per scrutare sotto gli alberi, non vide altro che le lunghe file di tronchi che si allontanavano nell'ombra azzurra. Tuttavia procedette guardingo, la spada in pugno, trapassando le ombre con lo sguardo acuto e camminando con passo elastico, senza far rumore. Tutto intorno vedeva i segni di un'antica civiltà. Fontane marmoree, mute e in rovina, si ergevano entro cerchi di alberi snelli, disposti in modo troppo simmetrico per apparire casuale. La selva e il sottobosco avevano invaso quei boschetti dal disegno geometrico, ma i loro contorni erano ancora visibili. Ampie pavimentazioni si stendevano sotto gli alberi. Erano spezzate e l'erba spuntava dalle grandi crepe. Conan scorse muri dalle tegole ornamentali e transenne di pietra scolpita che forse avevano fatto parte di antichi padiglioni. Davanti a lui, tra gli alberi, le cupole scintillavano. La mole dell'edificio che le sorreggeva appariva sempre più chiara via via che lui avanzava. Dopo un po', insinuatosi attraverso uno schermo di rami e di liane intricate, giunse a un tratto relativamente sgombro, dove gli alberi erano più radi e la vegetazione del sottobosco veniva meno, e vide l'ampio portico del palazzo. Mentre saliva la scalinata di marmo, notò che l'edificio era in uno stato di conservazione assai migliore delle strutture più piccole che aveva incontrato fino a quel momento. Le robuste mura e le massicce colonne sembravano troppo poderose per sgretolarsi sotto l'assalto del tempo e degli elementi. Lo stesso silenzio incantato regnava su tutto. In quella quiete il fruscio felino dei suoi sandali sembrava sorprendentemente rumoroso. In quel palazzo, chissà dove, c'era la statua o l'immagine che anticamente era servita come oracolo al clero del Keshan. E chissà dove, a meno che l'indiscreto sacerdote avesse riferito una menzogna, era nascosto il tesoro dei re dimenticati di Alcmenon. Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookauto ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookauto, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookautorent.com. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente, Edred. Conan entrò in una larga navata maestosa, fiancheggiata da alte colonne e da archi spalancati, dove le porte erano imputridite da chissà quanto tempo. L'attraversò in un soffuso chiarore crepuscolare e varcò i due grandi battenti di bronzo, leggermente socchiusi da secoli. Si trovò in un'immensa sala a cupola, che forse era servita per le udienze dei re di Alcmenon. La sala era ottagonale e la grande cupola che si incurvava al di sopra era ingegnosamente traforata, cosicché quell'ambiente era molto più illuminato della navata a colonne. In fondo stava un podio dai gradini di lapislazzuli che portavano a un seggio massiccio, dai braccioli ornati e dall'alto schienale che un tempo sosteneva senza dubbio un baldacchino di stoffa d'oro. Conan si lasciò sfuggire un borbottio e i suoi occhi si illuminarono. L'aureo trono di Alcmenon, ricordato dalle antichissime leggende, era davanti a lui. lo soppesò con occhi esperti. Già quello rappresentava una fortuna se avesse avuto la possibilità di portarlo via. Quella ricchezza accese la sua fantasia al pensiero del tesoro e lo fece ardere d'impazienza. Le dita gli prudevano per la smania di immergerle nelle gemme che nelle piazze del mercato a Kescia aveva sentito descrivere dai cantastorie, i quali ripetevano leggende tramandate oralmente nel corso dei secoli. Gemme che non avevano uguali al mondo, rubini, smeraldi, diamanti, sanguigne, opali, zaffiri, l'intero bottino del mondo antico. Aveva previsto di trovare la statua oracolo assisa sul trono, ma poiché non c'era, probabilmente doveva essere situata in qualche altra parte del palazzo, ammesso che esistesse davvero. Ma da quando si era diretto verso il Kashan, Conan aveva scoperto che molti miti corrispondevano alla realtà e perciò non dubitava che avrebbe trovato qualcosa di simile a una statua sacra. Dietro il trono si apriva uno stretto arco che ai tempi in cui Alcmenon era viva doveva essere celato da tendaggi. Conan guardò oltre e vide che dava in un'alcova vuota. Uno stretto corridoio la tagliava perpendicolarmente. Andò a scrutare oltre una successiva arcata sulla sinistra del podio. A differenza delle altre, aveva una porta. Non era una porta normale, era dello stesso ricco metallo del trono e ornata di arabeschi bizzarri. Al suo tocco incerto si spalancò prontamente, come se i cardini fossero stati oliati da poco tempo. Conan entrò e si fermò, spalancando gli occhi. Era una camera quadrata, non molto grande, con le pareti di marmo che salivano fino al soffitto intarsiato d'oro. Fregi aurei correvano alla base e alla sommità dei muri e non c'erano porte oltre quella da cui Conan era entrato. Ma lui prese nota meccanicamente di questi particolari. Tutta la sua attenzione era concentrata sulla figura che gli giaceva davanti su una pedana d'avorio. Aveva previsto di trovare una statua, probabilmente scolpita con la maestria di un'arte dimenticata. Ma l'arte non avrebbe mai potuto imitare la perfezione della figura che gli stava di fronte. Non era un'effigie di pietra, di metallo o d'avorio. Era il corpo di una donna. E Conan non riuscì a immaginare con quale scienza tenebrosa gli antichi avessero conservato indenne quella forma per tanti secoli. Perfino le vesti erano intatte. E Conan fece una smorfia, turbato da un vago senso di disagio che gli fremeva in fondo alla mente. Le arti che avevano conservato il corpo non avrebbero dovuto avere il minimo effetto sugli accessori. Eppure, eccoli lì! Il pettorale d'oro costellato di cerchi concentrici di piccole gemme, i sandali dorati, la corta gonna pieghettata sorretta da una cintura tempestata di pietre preziose. Né la stoffa né il metallo presentavano la minima traccia di corrosione. Ielaia aveva una fredda bellezza anche nella morte. Il suo corpo era come di alabastro, snello e tuttavia voluttuoso, e una grossa gemma cremisi spiccava sulla vaporosa chioma bruna. Conan restò a osservarla accigliato, poi percosse la pedana con la spada. C'era la possibilità che lì sotto ci fosse una cavità contenente il tesoro, ma il podio non suonava a vuoto. Si girò e misurò a lunghi passi la camera, indeciso. Dove avrebbe dovuto cercare in primo luogo nel tempo limitato che aveva a disposizione? Il sacerdote che lui aveva udito confidarsi con un cortigiano aveva detto che il tesoro era celato nel palazzo, ma si trattava di uno spazio troppo vasto. Si chiese se non avrebbe fatto meglio nascondersi fino a quando i sacerdoti fossero venuti lì e fossero ripartiti per poi riprendere la ricerca. Ma c'era la probabilità che si portassero via i gioielli al loro ritorno a Kescia. Era convinto infatti che Tutmekri fosse riuscito a corrompere Gorulga. Conan era in grado di predire le intenzioni di Tutmekri, poiché lo conosceva piuttosto bene. Sapeva che era stato lui a proporre la conquista del Punt ai re dello Zimbabwei, e quella conquista era soltanto un primo passo verso la realizzazione del loro vero scopo, impadronirsi dei denti di Gwalior. Quei re tanto guardinghi avrebbero preteso la prova dell'esistenza del tesoro prima di muoversi, e le gemme che Tutmekri aveva chiesto impegno dovevano costituire la prova. Quando avessero avuto la certezza concreta dell'esistenza del tesoro, i re dello Zimbabwe avrebbero agito. Il Punt sarebbe stato invaso contemporaneamente dall'est e dall'ovest, ma gli Zembabuani avrebbero fatto in modo che toccasse soprattutto ai Kesciani sostenere le sanguinose fatiche del combattimento. E poi, quando il Punt e il Keshan fossero stati ugualmente esausti per la guerra, gli Zembabuani avrebbero schiacciato entrambe le razze e saccheggiato il Keshan, prendendo il tesoro con la forza, anche se per farlo avessero dovuto distruggere ogni edificio e torturare ogni essere umano rimasto vivo nel regno. Ma c'era sempre un'altra possibilità. Se Tutmekri metteva le mani sul tesoro, con ogni verosimiglianza avrebbe defraudato i suoi mandanti, si sarebbe tenuto le gemme e sarebbe fuggito, lasciando gli emissari zembabuani a reggere il sacco. Conan era convinto che l'idea di consultare l'oracolo fosse soltanto un'astuzia per indurre il re del Keshan ad aderire ai desideri di Tutmekri. Infatti non dubitava neppure per un istante che Gorulga fosse sottile e subdolo quanto tutti gli altri protagonisti di quel colossale raggiro. Lui non aveva abbordato personalmente il sommo sacerdote, perché nel gioco della corruzione non avrebbe avuto molte possibilità contro Tutmekri, e se l'avesse tentato avrebbe indirettamente favorito l'ostigiano. Gorulga avrebbe potuto denunciare il cimmero al cospetto del popolo, guadagnandosi la fama di incorruttibile, e nel contempo avrebbe liberato Tutmekri dal concorrente. Conan si chiese come avesse fatto Tutmekri a corrompere il sommo sacerdote e cosa si potesse offrire a un uomo che aveva a portata di mano il più grande tesoro del mondo. Comunque non gli era difficile immaginare quale sarebbe stato il responso dell'oracolo. Gli dèi, avrebbe detto, volevano che il Keshan si adeguasse ai desideri di Tutmekri, ed era altrettanto sicuro che avrebbe formulato qualche commento sfavorevole su di lui. Da quel momento Keshia sarebbe stato troppo pericolosa per il Cimmero, che del resto si era allontanato nella notte dalla capitale senza la minima intenzione di farvi ritorno. La camera dell'oracolo non gli offriva nessuna indicazione. Tornò nella grande sala delle udienze e posò le mani sul trono. Era pesante, ma lui riuscì a sollevarlo da una parte. Sotto il pesante podio era di marmo massiccio. Conan tornò a esplorare l'alcova. Pensava che dovesse esserci una cripta segreta non lontana dall'oracolo. Si mise allora a battere meticolosamente contro le pareti e dopo un po' udì un suono vuoto in un punto di fronte all'imboccatura dello stretto corridoio. Osservò più da vicino e vide che in quel punto la fessura tra i pannelli di marmo era un poco più larga delle altre. Vi inserì la punta del pugnale e premette. La lastra ruotò senza far rumore, rivelando una nicchia e null'altro. Il cimmero imprecò rabbiosamente. Il varco era vuoto e non aveva l'aria di aver mai contenuto un tesoro. Sporgendosi, scorse un sistema di minuscoli fori nella parete, più o meno all'altezza della bocca di un uomo. Sbirciò meglio e borbottò. Aveva capito! Quello era il muro divisorio tra l'alcova e la stanza dell'oracolo. Dalla camera i fori non erano visibili. Conan sogghignò. Questo spiegava il mistero dell'oracolo. Ma era un trucco molto più rozzo di quanto avesse previsto. Gorulga si sarebbe nascosto nella nicchia o vi avrebbe piazzato uno dei suoi fedeli per parlare attraverso quei fori. E i creduli accoliti, tutti neri, avrebbero preso la voce per quella di Yelaya. Colpito da un ricordo improvviso, il cimmero sfilò dalla cintura il rotolo di pergamena che aveva sottratto le mummie e lo svolse delicatamente perché sembrava sul punto di sgretolarsi. Studiò con una smorfia i caratteri indistinti di cui era coperto. Nei suoi vagabondaggi intorno al mondo aveva acquisito una vasta infarinatura di sapere e in particolare aveva appreso a parlare e a leggere molte lingue. Parecchi studiosi sarebbero rimasti sbalorditi per le capacità linguistiche di quel barbaro, perché aveva vissuto molte avventure in cui la conoscenza di un idioma straniero l'aveva salvato da morte certa. I caratteri erano sconcertanti, familiari e nel contempo incomprensibili, e dopo qualche attimo Conan ne comprese la ragione. Erano i caratteri del pelishtico arcaico e presentavano molte differenze rispetto alla scrittura dei suoi tempi, che lui conosceva piuttosto bene e che 3 secoli prima era stata modificata in seguito alle conquiste di una tribù di nomadi. Quella scrittura antica e più difficile lo sconcertava. Tuttavia notò un'espressione ricorrente in cui riconobbe un nome proprio, Bit Yakin. ne dedusse che doveva essere il nome dell'autore di quel documento. Accigliandosi, muovendo inconsciamente le labbra mentre si impegnava in quel compito, arrivò al termine del manoscritto. In gran parte era intraducibile e quasi tutto il resto appariva molto oscuro. Riuscì solamente a dedurre che l'autore, questo misterioso Bit Yaken, era giunto da molto lontano in compagnia dei suoi servitori ed era entrato nella valle di Alcmenon. Gran parte del testo che seguiva era incomprensibile, pieno di frasi e caratteri sconosciuti. Quel po' che riuscì a tradurre aveva l'aria di significare il trascorrere di un lunghissimo periodo di tempo. Il nome di Yelaya ricorreva spesso e verso la conclusione diventava evidente che Bit Yaken sapeva di essere prossimo alla morte. Con un lieve sussulto, Conan comprese che la mummia trovata nella grotta doveva essere quanto restava dell'autore del manoscritto. Il misterioso Pelishtita Bit Yaken. L'uomo era morto come aveva profetizzato e i suoi servitori evidentemente l'avevano posto in quella cripta aperta nella parte più alta dello strapiombo secondo le istruzioni che lui stesso aveva impartito. Era strano che Bit Yaken non venisse mai menzionato nelle numerose leggende di Alcmenon. Evidentemente era giunto nella valle dopo che era stata abbandonata dagli abitanti. Questo lo si capiva dal manoscritto, ma sembrava incredibile che i sacerdoti, i quali anticamente si recavano a consultare l'oracolo, non avessero mai visto quell'uomo nei suoi servitori. Conan era sicuro che la mummia e la pergamena fossero più vecchi di un secolo. Bit Yaken aveva soggiornato nella valle quando i sacerdoti venivano ancora a inchinarsi alla morta Yelaya. Eppure le leggende non parlavano di lui, ma solo di una città deserta popolata dai morti. Perché quell'uomo era vissuto in quella località desolata e per quale destinazione ignota erano partiti i suoi servitori dopo aver portato il corpo del padrone all'ultima dimora? Conan, scrollando le spalle, si infilò di nuovo la pergamena nella cintura e trasalì con violenza. Un formicolio improvviso gli percorse il dorso delle mani. Nel silenzio addormentato era risuonato il clangore profondo e stridente di un grande gong. Si girò di scatto, acquattandosi come un grosso felino, con la spada in pugno, spiando lo stretto corridoio dal quale gli era parso che provenisse il suono. Erano forse arrivati i sacerdoti del Keshia? Gli sembrava improbabile, non potevano aver avuto il tempo di raggiungere la valle. Ma quel gong era la testimonianza incontestabile di una presenza umana. Conan, fondamentalmente, amava l'azione diretta. La sua sottigliezza era stata acquisita attraverso i contatti con razze più astute e subdole. Quando veniva colto di sorpresa da un evento inatteso, ritornava istintivamente agli impulsi innati. Perciò, anziché nascondersi o sgattaiolare via nella direzione opposta, come avrebbe fatto un uomo normale, si precipitò lungo il corridoio verso il suono. I suoi sandali non facevano più rumore delle zampe di una pantera. Gli occhi erano socchiusi, le labbra inconsciamente contratte. Il panico aveva sfiorato per un attimo la sua anima a quel suono inaspettato e la rossa furia primitiva che si ridesta nella vicinanza del pericolo era sempre pronta ad affiorare alla superficie della sua indole. Poco dopo, il cimmero uscì dal tortuoso corridoio e si trovò in un cortiletto scoperto. Qualcosa che scintillava nel sole attirò il suo sguardo. Era il gong! Un grande disco dorato sospeso a un aureo sostegno che sporgeva dal muro cadente. Lì accanto stava una mazza di bronzo, ma non si scorgeva traccia di esseri umani. Le arcate del cortile erano vuote. Conan si acquattò sulla soglia e rimase immobile per un tempo che gli parve molto lungo. Non c'erano suoni né movimenti in tutto il grande palazzo. Alla fine perse la pazienza e girò intorno alla curva del cortile, spiando oltre le arcate, pronto a sferciar via come un lampo o a colpire a destra e a sinistra con la mortale prontezza del cobra. Raggiunse il gong e scrutò l'arcata più vicina. Scorse soltanto una camera semibuia piena di relitti. Sotto il gong le lastre di marmo levigato non mostravano tracce di orme, ma nell'aria c'era un odore. Un sentore vagamente fetido che Conan non riusciva a riconoscere. Dilatò le narici come una bestia selvatica, cercando invano di classificarlo. Si voltò verso l'arco e con spaventosa subitaneità le lastre, che sembravano solidissime, si frantumarono sotto i suoi piedi. Mentre cadeva, Conan spalancò le braccia e si afferrò ai bordi dell'apertura, spalancatasi all'improvviso. I bordi si sgretolarono sotto le sue dita. Piombò nell'oscurità più assoluta, in una gelida acqua nera che l'afferrò e lo trascinò via con rapidità sconvolgente. Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. Due. All'inizio il cimmero non tentò di lottare contro la corrente che lo portava nella notte buia. Si tenne a galla, stringendo tra i denti la spada che non aveva abbandonato neppure nella caduta, e non cercò di immaginare il fato verso cui veniva trascinato. Ma all'improvviso un fascio di luce squarciò la tenebra davanti a lui. Vide la nera e ribollente superficie dell'acqua, tumultuosa come se fosse disturbata da un mostro abissale, e notò che le ripide pareti di pietra del canale si incurvavano sopra di lui in una volta. Ai due lati correva uno stretto cornicione, ma era troppo alto per raggiungerlo. La volta era sfondata, probabilmente a causa di una frana, e la luce penetrava dall'apertura. Oltre il fascio di luce, la tenebra era assoluta, e il cimmero fu preso dal panico, quando si rese conto che sarebbe presto stato trascinato al di là di quella macchia di chiarore e di nuovo nell'oscurità misteriosa. Poi scorse qualcos'altro. Scalette di bronzo scendevano a intervalli regolari dai cornicioni fino alla superficie dell'acqua, e ce n'era una proprio davanti a lui. Subito prese a nuotare energicamente, lottando contro la corrente che lo teneva al centro del canale. Sembrava quasi che l'afferrasse con mani animate e viscide. Tuttavia Conan si batté con la forza della disperazione, portandosi sempre più vicino alla riva furiosamente. Quando arrivò all'altezza della scala, con uno slancio rabbioso e ansante, si afferrò all'ultimo scalino e vi rimase appeso per riprendere fiato. Dopo qualche secondo, emerse faticosamente dall'acqua turbinosa, affidando con qualche incertezza il proprio peso ai corrosi scalini. Si piegarono e vacillarono, ma ressero, e Conan si issò sullo stretto cornicione a poca distanza dalla volta ricurva. Alto com'era, fu costretto a tenersi curvo. Accanto alla scaletta c'era una pesante porta di bronzo, ma non cedette nonostante i suoi sforzi. Conan tolse la spada dalla stretta dei denti e la ripose nel fodero, sputando sangue perché il filo gli aveva tagliato le labbra durante la feroce lotta col fiume sotterraneo, e concentrò l'attenzione sulla volta sfondata. Alzando le braccia nel varco, riuscì ad afferrarsi all'orlo. Provò e riprovò cautamente, fino a quando fu certo che avrebbe sostenuto il suo peso. Dopo un istante si issò e si trovò in un'ampia camera molto danneggiata. Gran parte del tetto era crollata, e così pure un tratto del pavimento che copriva la volta del canale. Arcate infrante davano in altre camere e in diversi corridoi, e Conan pensò che doveva essere ancora all'interno del grande palazzo. Si chiese inquieto quante stanze fossero situate sopra i fiumi sotterranei e se le piastrelle e le lastre di marmo avrebbero ceduto di nuovo, facendolo precipitare di nuovo nella corrente da cui era appena uscito. Poi si chiese se la sua caduta fosse stata davvero accidentale. Era stato un caso se le lastre corrose erano crollate? Oppure c'era una spiegazione più sinistra? Una cosa senza dubbio era ovvia. Non era l'unico essere vivente nel palazzo. Il gong non aveva suonato da solo, indipendentemente dal fatto che quel suono avesse avuto o no lo scopo di attirarlo in una trappola mortale. Il silenzio del palazzo divenne improvvisamente sinistro e carico di minaccia. Poteva essere qualcuno venuto lì con le sue stesse intenzioni? Un pensiero improvviso lo colpì al ricordo del misterioso Bit Yaken. Non poteva darsi che quell'uomo avesse trovato i denti di Gua'alur durante il lungo soggiorno ad Alcmenon e che i suoi servitori li avessero portati con sé quando se n'erano andati? Il sospetto di aver intrapreso la caccia ad un fuoco fatuo esasperò completamente il cimmero. Scelse un corridoio che, secondo il suo senso dell'orientamento, doveva riportarlo nella parte del palazzo da dove era entrato. Lo percorse a passo svelto, posando con cautela i piedi e pensando al nero fiume che spumeggiava e turbinava sotto di lui. Non riusciva a togliersi dalla mente, tuttavia, la camera dell'oracolo e la sua misteriosa inquilina. In quel posto lì vicino doveva esserci la chiave del mistero del tesoro, seppure si trovava tuttora nell'antico nascondiglio. Il grande palazzo era silenzioso come sempre. C'era solo il fruscio dei suoi rapidi passi. Le camere e i corridoi che attraversava erano diroccati, ma via via che procedeva le devastazioni dello sfacelo diventavano meno evidenti. Si chiese fuggevolmente quale funzione avessero avuto le scalette a grappe che salivano dal fiume sotterraneo, ma scacciò quel pensiero con una scrollata di spalle. Non gli interessavano molto i problemi dell'antichità che non offrivano risposte utili. Non sapeva esattamente dove era situata la camera dell'oracolo rispetto al punto in cui si trovava, ma dopo un po' raggiunse un corridoio che portava nella grande sala del trono, attraverso una delle arcate. Aveva preso una decisione. Era inutile continuare a vagare senza meta nel palazzo alla ricerca del tesoro. Si sarebbe nascosto in qualche angolo, avrebbe atteso l'arrivo dei sacerdoti del Keshan, e poi, quando avessero terminato la farsa della consultazione dell'oracolo, li avrebbe seguiti fino al nascondiglio delle gemme, poiché era certo che sarebbero andati là. Forse avrebbero portato via solo una parte del tesoro e lui si sarebbe accontentato del resto. Attratto da un interesse morboso, rientrò nella camera dell'oracolo e fissò di nuovo la figura immobile della principessa che veniva adorata come una dea. Quella gelida bellezza l'affascinava. Quale segreto si celava nella sua forma meravigliosamente modellata? Ebbe un sussulto. Il respiro gli sibilò tra i denti e i capelli gli si rizzarono sulla nuca. Il corpo giaceva ancora come la prima volta che l'aveva visto, silenzioso ed immoto, col pettorale d'oro ingemmato, i sandali dorati e la gonna serica. Ma adesso c'era una differenza impercettibile. Le snelle membra non erano rigide. Un tenue colore di pesca tingeva le guance. Le labbra erano rosse. Con un'imprecazione atterrita, Conan sguainò fulmineamente la spada. Erkrom è viva! A quelle parole le lunghe ciglia scure si sollevarono, gli occhi si aprirono e lo guardarono, imperscrutabili, scuri, lucenti e mistici. Conan la fissava, immobile e ammutolito. La giovane donna si sollevò a sedere con agile grazia sotto il suo sguardo affascinato. Conan si umettò le labbra aride e ritrovò la voce chiedendo: «Tu... tu sei... sei... Yelaya!» «Io sono Yelaya!» La voce era intensa e musicale, e Conan spalancò gli occhi ancora più sbalordito. «Non temere. Non ti farò del male se ubbidirai.» «Com'è possibile che una morta ritorni in vita dopo tanti secoli?» chiese il cimmero, che quasi non riusciva a credere ai propri sensi. Uno strano bagliore cominciava ad accendersi nei suoi occhi. Yelaya alzò le braccia in un gesto mistico. «Sono una dea. 1000 anni fa è scesa su di me la maledizione di divinità più potenti, gli dei delle tenebre che stanno oltre i confini della luce. La mortale che era in me è morta, ma la dea non poteva morire. Sono rimasta qui a giacere per molti secoli, destandomi ogni sera al tramonto per tenere corte come un tempo con gli spettri tratti dalle ombre del passato. Uomo, se non vuoi vedere ciò che distruggerebbe per sempre la tua anima, affrettati ad andartene. Te lo comando. Va!» La voce divenne imperiosa. Lo snello braccio si tese, indicando. Conan, con gli occhi socchiusi e ardenti, rinfoderò lentamente la spada, ma non ubbidì all'ordine. Si fece più vicino, come se fosse spinto da un potente incantesimo, e all'improvviso l'afferrò in una stretta poderosa. La giovane donna proruppe in un urlo indegno di una dea. Poi ci fu il suono della seta lacerata, quando, con uno strattone implacabile, il cimmero le strappò la gonna. «Una dea! Ah!» L'esclamazione era carica di rabbioso disprezzo. Conan ignorò i frenetici contorcimenti della prigioniera. Mi sembrava strano che una principessa di Alcmenon parlasse con accento corinzio. Appena ho riacquistato un po' di lucidità, ho rammentato di averti già vista da qualche parte. Tu sei Muriela, la danzatrice corinzia di Zargheba. Questa boglia a forma di mezzaluna che hai sul fianco lo dimostra bene. L'ho vista una volta quando Zargheba ti stava frustando. Una dea! Conan le batté la mano aperta, sonoramente, sul fianco scoperto, e la ragazza lanciò un gemito di dolore. Aveva perso tutta l'imperiosità di pochi attimi prima. Non era più una figura mistica dell'antichità, ma una danzatrice umiliata e atterrita, quale sarebbe stato possibile comprare in qualunque mercato scemita. Alzò la voce e pianse senza vergogna. Conan la fissava con aria di rabbioso trionfo. Una dea! Dunque eri tu una delle donne velate che Zargheba ha condotto con sé a Keshia. Credevi di potermi ingannare, piccola idiota? Un anno fa ti ho vista da Akbitana con quel porco di Zargheba e io non dimentico mai una faccia o una figura di donna. Credo che... Divincolandosi nella sua stretta, la giovane gli gettò le braccia al collo in uno slancio di terrore. Le lacrime le scorrevano sulle guance e i suoi singhiozzi avevano una nota isterica. Oh, ti supplico, non farmi del male, ti prego. Ho dovuto comportarmi così. Zargheba mi ha portata qui perché facessi da oracolo. Che mercoledì, ragazzi. Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico. Con Lookouto ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookouto, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutorent.com. Piccola spudorata sacrilega! Tu non temi gli dèi? Per Crom, non è più rimasta onestà in questo mondo? Ti prego, non potevo disubbidire a Zargheba. Cosa farò? Sarò maledetta da queste divinità pagane. Cosa credi che ti faranno i sacerdoti se scopriranno il tuo inganno? A quel pensiero le gambe non la sorressero più. Si accasciò tremando e strinse le ginocchia di Conan, mescolando incoerenti invocazioni di misericordia e di protezioni a patetiche proteste di innocenza. Era un cambiamento molto netto dalla posa di principessa antica, ma non sorprendente. La paura che prima l'aveva sostenuta era adesso la sua rovina. «Dov'è Zargheba? E piantala di piagnucolare, maledizione! Rispondimi!» «È fuori dal palazzo. Sta aspettando l'arrivo dei sacerdoti.» «Quanti uomini ha portato con sé quello stolto?» «Nessuno. Siamo venuti soli.» «Ah! Senza dubbio avete lasciato Keshia poche ore dopo di me. Avete scalato i precipizi?» La ragazza scrollò la testa, soffocata dalle lacrime che le impedivano di rispondere in modo coerente. Con un'imprecazione spazientita, Conan le strinse le esili spalle e la scrollò fino a quando lei ansimò per riprendere fiato. «Vuoi piantarla di frignare e deciderti a rispondere? Come siete entrati nella valle, dimmelo!» «Zargheba conosce la via segreta. Gliel'hanno rivelata il sacerdote Gwarunga e Tutmekri. Sul lato meridionale della valle c'è un ampio stagno ai piedi degli strapiombi. Sotto la superficie c'è l'ingresso di una grotta, ma non è visibile a un osservatore casuale. Ci siamo tuffati e vi siamo entrati. La grotta emerge quasi subito dall'acqua e conduce attraverso la fascia dei precipizi. L'apertura all'interno della valle è mascherata dai cespugli.» «Io invece mi sono arrampicato sugli strapiombi del lato orientale. Bene, e poi?» «Abbiamo raggiunto il palazzo e Zargheba mi ha nascosta fra gli alberi mentre andava in cerca della camera dell'oracolo. Non credo che si fidasse completamente di Gwarunga. Durante la sua presenza mi è parso di udire il suono di un gong, ma non ne sono sicura. Poco dopo Zargheba è ritornato e mi ha condotta nel palazzo, in questa stanza, dove la dea Yelai giaceva sul piedistallo. L'ha spogliata e mi ha fatto indossare le sue vesti e i suoi ornamenti. Poi si è allontanato per nascondere il corpo e spiare l'arrivo dei sacerdoti. Avevo tanta paura. Quando sei entrato avrei voluto balzare in piedi e supplicarti di portarmi via da qui, ma temevo troppo, Zargheba. Poi tu hai scoperto che ero viva e allora ho cercato di convincerti ad andartene.» «E cosa dovevi dire come oracolo?» «Dovevo ordinare ai sacerdoti di prendere i denti di Gwalor e di consegnarne alcuni a Tutmekri. Impegno. così come lui aveva chiesto, e di portare il resto nel palazzo di Kesha. Dovevo aggiungere che un destino tremendo minacciava il Keshan se non avessero accettato le proposte di Tutmegri. E poi... Oh sì, dovevo anche ordinare di farti scuoiare vivo. Immediatamente. Tutmegri voleva far portare il tesoro in un luogo dove lui e gli Zembabuani avrebbero potuto impadronirsene con facilità. Io gli strapperò il fegato! Naturalmente Gorulga è a parte di questo raggiro, vero? No, crede nelle sue divinità ed è incorruttibile. Non ne sapeva nulla, ubbidirà all'oracolo. È stato tutto un piano di Tutmegri. Sapendo che i Keshani avrebbero consultato l'oracolo, ha detto a Zargheba di portarmi qui insieme all'ambasceria del Zimbabwe, tenendomi sempre velata e ben nascosta. Bene, che io sia dannato! Un sacerdote che crede sinceramente al suo oracolo e che non si lascia corrompere! Per Crom! Chissà se è stato Zargheba a suonare quel gong. Sapeva che io ero qui? Poteva sapere che le pietre erano fradice? E adesso dov'è, ragazza? Si nasconde in un boschetto d'alberi di loto presso l'antico viale che conduce nella parete meridionale dello Strapiombo fino al palazzo. Oh, Conan, portami via con te! Zargheba mi ucciderà quando non gli servirò più, lo so! E anche i sacerdoti mi ucciderebbero se scoprissero l'inganno. È un demonio, mi ha comprata da un mercante di schiavi che mi aveva rapita da una carovana diretta verso il Kot meridionale e da quel giorno ha fatto di me uno strumento dei suoi intrighi. Portami via! Non puoi essere crudele quanto lui, non lasciarmi qui a morire! Ti prego, ti prego! Era inginocchiata e si aggrappava istericamente a Conan, col bel volto macchiato dalle lacrime e i bruni capelli di seta sparsi disordinatamente sulle candide spalle. Conan la sollevò e se la fece sedere sulle ginocchia. «Ascoltami, fanciulla, io ti proteggerò da Zargheba. I sacerdoti non sapranno nulla della tua perfidia, ma tu dovrai fare tutto ciò che ti dirò io!» La ragazza farfugliò promesse di obbedienza, stringendosi al suo collo taurino come se cercasse la sicurezza in quel contatto. «Bene, quando verranno i sacerdoti, tu reciterai la parte di Yelaya, come aveva progettato Zargheba. Sarà buio e alle luci delle torce non potranno notare la differenza. Ma tu dirai loro questo. È volere degli dei che l'ostigiano e i suoi cani scemiti vengano cacciati da Keshan. Sono ladri e traditori che intendono derubare gli dei. I denti di Gualur devono essere affidati al generale Conan, che guiderà l'esercito del Keshan. Conan è l'eletto degli dei!» Muriel rabbrividì con un'espressione disperata, ma annuì. «Non preoccuparti di Zargheba, penserò io a sistemare quel cane. Tu fai ciò che ti ho detto. E adesso su, riassettati i capelli, ti sono ricaduti sulle spalle e hai perso la gemma!» Rimise a posto la grande pietra splendente, con un cenno di approvazione. «Questa qui da sola vale decine di schiavi. Ecco, indossa la gonna. Ha uno strappo sul fianco, ma i sacerdoti non se ne accorgeranno. Asciugati la faccia. Una dea non piange come una scolaretta frustata. Per Crom, somigli davvero a Yelaya. La faccia, i capelli, la figura. Se riceterai bene la tua parte, come hai fatto con me, li ingannerai facilmente.» «Proverò.» «Bene, ora andrò in cerca di Zargheba.» A quelle parole la giovane cedette di nuovo al panico. «No, non lasciarmi sola, questo luogo è infestato!» «Qui non c'è nulla che possa farti del male, c'è soltanto Zargheba e a lui penserò io. Tornerò tra poco, osserverò stando qui vicino nel caso che qualcosa andasse male durante la cerimonia. Ma se farai bene la tua parte, non accadrà nulla di spiacevole.» Poi si voltò e uscì dalla camera dell'oracolo, mentre Muriela gemeva disperata. Era sceso il crepuscolo. Le grandi sale e i corridoi erano immersi nell'ombra, i fregi di rame luccicavano nella semioscurità. Conan procedeva come un fantasma silenzioso, assillato dalla sensazione di essere spiato dagli invisibili spettri del passato, annidati nei recessi bui. Non c'era da stupirsi che la ragazza si sentisse nervosa in un simile ambiente. Scese la gradinata di marmo furtivo come una pantera con la spada in pugno. Il silenzio regnava sulla valle e sopra l'orlo degli strapiombi cominciavano ad affacciarsi le stelle. Se i sacerdoti di Keshia erano già entrati nella valle, non un suono o un movimento fra la vegetazione tradiva la loro presenza. Conan sparse il viale dalla pavimentazione sconnessa che puntava verso sud, perduto fra masse di fronde e di fitti arbusti. Lo seguì guardingo tenendosi al limitare della pavimentazione, dove i cespugli creavano ombre più fitte, fino a quando vide indistintamente più avanti il boschetto degli alberi di loto, le strane piante caratteristiche delle terre nere del Kush. Là, secondo ciò che aveva detto la ragazza, doveva essere nascosto Zargheba. Conan divenne la circospezione personificata. Si dileguò tra i cespugli come un'ombra dai piedi di velluto. Si accostò al boschetto degli alberi di loto con un movimento circolare, senza che il fruscio delle fronde tradisse il suo passaggio. Al limitare della macchia si fermò all'improvviso e si acquattò fra gli arbusti come un leopardo sospettoso. Davanti a lui, tra il fogliame più denso, appariva un ovale pallido, indistinto nella fioca luce. Poteva essere uno dei grandi fiori bianchi che sbocciavano fitti tra i rami. Ma Conan invece sapeva che quella era la faccia di un uomo ed era rivolta verso di lui. Si ritrasse prontamente nell'ombra. Zargheba l'aveva visto? Sembrava che l'uomo guardasse nella sua direzione. Trascorsero lunghi secondi. Il volto non si era mosso. Conan riuscì a scorgere il ciuffo scuro che rivelava la corta barba nera. E all'improvviso notò qualcosa di innaturale. Sapeva che Zargheba non era alto. In piedi gli arrivava appena alla spalla. Eppure quella faccia era all'altezza della sua. Era ritto su un ceppo, forse. Conan si chinò e scrutò il suolo sotto il punto dove stava la faccia, ma i tronchi degli alberi e la vegetazione del sottobosco gli impedivano di vedere. Tuttavia scorse qualcos'altro e si irrigidì. Attraverso un varco nel fogliame intravide il tronco dell'albero sotto il quale doveva stare Zargheba. La faccia era direttamente in linea con quell'albero e lui avrebbe dovuto vedere non il tronco, bensì il corpo di Zargheba. Ma non c'era. Più teso di una tigre che si avvicina alla preda, Conan si insinuò nel folto del boschetto e dopo un attimo scostò un ramo fronzuto e fissò la faccia, che non si era mossa. E non si sarebbe mossa mai più di sua volontà. Quella che Conan stava guardando era la testa mozzata di Zargheba, appesa al ramo dell'albero per i lunghi capelli neri. Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookauto ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookauto, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookautorent.com. Conan girò agilmente su se stesso, scrutando le ombre con occhi ardenti. Non c'era traccia del corpo dell'uomo assassinato. Solo un poco più avanti l'alta erba rigogliosa era calpestata e spezzata e il suolo era chiazzato da qualcosa di umido e scuro. Trattenendo il respiro, il cimmero tese l'orecchio nel silenzio. Gli alberi e i cespugli dai grandi fiori pallidi erano immoti, cupi e sinistri, profilati contro l'addensarsi del crepuscolo. Terrori primitivi sussurrarono in fondo alla mente di Conan. Era opera dei sacerdoti del Keshan? Ma in tal caso dov'erano? Era stato davvero Zargheba a suonare il gong? Gli tornò il ricordo di Bit-Yaken e dei suoi misteriosi servitori. Bit-Yaken era morto, in carta pecorito e legato nella grotta, dove salutava eternamente il sorgere del sole. Ma dei suoi servitori non si sapeva nulla. Non c'era la prova che avessero mai lasciato la valle. Conan pensò alla ragazza Muriela, sola e indifesa nel grande palazzo buio. Girò su se stesso e tornò di corsa al viale come un leopardo sospettoso, sempre pronto a voltarsi fulmineamente a destra o a sinistra per sferrare colpi mortali. Il palazzo torreggiava fra gli alberi e il cimero scorse qualcosa d'altro, un bagliore di fuoco che si rispecchiava rosseggiante sul marmo levigato. Si dileguò tra i cespugli che fiancheggiavano la strada dissestata, si insinuò tra la fitta vegetazione e raggiunse il limitare dello spiazzo davanti al portico. Gli giunse un suono di voci. Torce accese lingueggiavano gettando riflessi su lucide spalle d'ebano. I sacerdoti kesciani erano arrivati. non avevano percorso l'ampio viale come aveva previsto Zargheba. Evidentemente c'era più di una strada segreta che attraversava la valle di Akmenon. I sacerdoti stavano salendo l'ampia scalinata marmorea, reggendo alte le fiaccole. Conan scorse Gorulga alla testa della processione, un profilo di rame cesellato che spiccava nella luce delle torce. Gli altri erano accoliti, uomini neri e giganteschi, sulla cui pelle la luce danzava con strani riflessi. Al termine del corteo procedeva un nero enorme dal volto perverso. Nello scorgerlo, Conan fece una smorfia. Quello era Gwarunga, che a detta di Muruyela aveva rivelato a Zargheba il segreto per entrare nella valle. Conan si chiese fino a che punto quell'uomo fosse al corrente degli intrighi dell'ostigiano. Si affrettò ad avvicinarsi al portico, girando intorno allo spiazzo per restare nell'ombra. I sacerdoti non lasciarono nessuno di guardia all'ingresso. Le torce si allontanarono nella lunga navata buia. Prima che giungessero alla porta due battenti all'estremità opposta, Conan salì la scalinata esterna ed entrò. Procedendo svelto lungo la parete fiancheggiata da colonne, arrivò nella grande porta, mentre il corteo attraversava l'immensa sala del trono, scacciando le ombre con le torce. I sacerdoti non si voltarono. In fila, con le acconciature di piume di struzzo che ondeggiavano e le tuniche di pelle di leopardo che spiccavano in uno strano contrasto contro i marmi e i metalli arabescati dell'antico palazzo, attraversarono l'ampia sala e si fermarono davanti alla porta dorata a sinistra del trono. La voce di Gorulga risuonò tonante e cavernosa nello spazio vuoto, usando con maestria parole incomprensibili per Conan. Poi il sommo sacerdote spalancò la porta aurea ed entrò, inchinandosi ripetutamente. E dietro di lui le fiaccole si abbassarono e si risollevarono, lanciando guizzi di fiamma quando i membri del seguito imitarono il loro capo supremo. La porta dorata si chiuse dietro di loro, lasciando fuori suoni e luce, e Conan sfrecciò attraverso la sala del trono e si infilò nell'alcova, più silenzioso di un colpo di vento. Sottili raggi di luce filtravano dalle aperture nella parete, quando il cimero aprì il pannello segreto. Si insinuò nella nicchia e sbirciò. Muriela stava seduta eretta sul piedistallo, con le braccia conserte e la testa appoggiata contro la parete a poche spanne dai suoi occhi. Il delicato profumo dei vaporosi capelli bruni gli giunse alle narici. Non poteva vederla in faccia, ma a giudicare dal suo atteggiamento sembrava che guardasse tranquillamente un abisso lontano, al di sopra delle teste rasate dei giganti neri inginocchiati davanti a lei. Conan sogghignò soddisfatto. Quella sgualdrinella era una vera attrice, pensò. Sapeva che Muriela era in preda al terrore, ma non lo mostrava. Nell'incerta luce delle fiaccole era identica alla dea che lui aveva visto giacente sullo stesso piedistallo, se mai era possibile immaginare quella dea piena di vita vibrante. Gorulga stava intonando una cantilena con un accento che Conan non comprendeva. Probabilmente era un'invocazione nell'antica lingua di Alcmenon, tramandata di generazione in generazione dai sommi sacerdoti. E sembrava interminabile. Conan si sentì inquieto. Più la scena si protraeva, più sarebbe stato terribile la tensione per Muriela. Se fosse crollata... Passò la mano sull'elsa della spada e sul pugnale. Non avrebbe tollerato di vedere quella piccola stupida torturata e uccisa dagli uomini neri. Ma finalmente la cantilena, profonda, cupa, indescrivibilmente lugubre, ebbe termine e fu seguita dalle grida d'acclamazione degli accoliti. Alzando la testa e tendendo le braccia verso la figura silenziosa sul piedistallo, Gorulga gridò nei toni risonanti che era un suo attributo naturale: «Oh grande dea, che dimori col grande della tenebra, addolcisci il tuo cuore, schiudi le labbra per gli orecchi del tuo schiavo che è polvere sotto i tuoi piedi. Parla, grande dea della Sacra Valle! Tu conosci le vie che si schiudono davanti a noi. L'oscurità che ci tormenta è per te come la luce del meriggio. Spandi il fulgore della tua sapienza sulla strada dei tuoi servi. Rivelaci, portavoce degli dei, qual è il loro volere per quanto concerne Tutmekri l'ostrigiano!» La massa di capelli bruni che rifletteva la luce delle torce in un baluginio di bronzo fremette lievemente. Un profondo sospiro salì dalle labbra degli uomini neri, un sospiro che era per metà reverenza e per metà paura. La voce di Muriela giunse chiara agli orecchi di Conan, nel silenzio che era teso. Era una voce fredda, distaccata, impersonale, sebbene l'accento corinzio lo facesse rabbrividire. È volere degli dei che l'ostigiano e i suoi cani scemiti vengano scacciati dal Keshan. Sono ladri e traditori che tramano di derubare gli dei. Affidate i denti di Gualor al generale Conan, che guiderà l'esercito del Keshan. Conan è l'eletto degli dei. La ragazza ripeté esattamente le parole che lui le aveva suggerito. Ma c'era un tremito nella voce di Muriela e Conan cominciò a sudare, temendo che fosse sul punto di cedere a un collasso isterico. Ma gli uomini neri non se ne accorsero, così come non avevano identificato l'accento corinzio, del tutto sconosciuto per loro. Batterono le mani sommessamente e dalle loro bocche uscì un mormorio di meraviglia e di reverenza. Gli occhi di Gorulga brillarono di una luce fanatica nel chiarore delle fiaccole. «Yelaya ha parlato! È il volere degli dei! Molto tempo fa, ai tempi dei nostri avi, le gemme erano state proclamate tabù e nascoste per comando degli dei, che le avevano strappate alle spaventose fauci di Gualur, il re della tenebra, alla nascita del mondo. Per comando degli dei, i denti di Gualur sono stati nascosti, per loro comando saranno riportati alla luce!» «Oh, dea nata dalle stelle, dacci licenza di andare a nascondiglio segreto dei denti per consegnarli a colui che è amato dagli dei!» «Avete la mia licenza!» rispose la falsa dea con un imperioso gesto di congedo che fece sogghignare Conan. I sacerdoti indietreggiarono e le piume di struzzo si alzarono e si abbassarono al ritmo degli inchini. La porta d'oro si schiuse con un gemito e la dea si abbandonò sul piedistallo. «Conan! Conan!» Sibilò il cimmero attraverso le aperture. Si voltò, scivolò fuori dalla nicchia e richiuse il pannello. Un'occhiata oltre lo stipite della porta gli mostrò le fiaccole che si allontanavano attraverso l'immensa sala del trono, ma nello stesso istante si accorse di una luminosità che non era irradiata dalle torce. Trasalì, ma subito gli si presentò la spiegazione. La luna si era levata presto e la luce filtrava obliqua attraverso la cupola traforata che, grazie a qualche trucco ingegnoso, potenziava il chiarore. La cupola splendente di Alcmenon, quindi, non era leggenda. Forse l'interno era rivestito dello strano cristallo bianco e fiammeggiante che si trovava solo tra le colline delle Terre Nere. La luce inondava la sala del trono e filtrava nelle camere adiacenti. Ma mentre Conan si avviava verso la porta che conduceva alla sala delle udienze, lo fece voltare di scatto un rumore proveniente dal corridoio a lato dell'alcova. Si acquattò all'imboccatura e scrutò, ricordando il fragore del gong che l'aveva attirato in una trappola. La luce della cupola si addentrava per un breve tratto nello stretto corridoio e gli mostrava soltanto il vuoto. Eppure avrebbe giurato di aver udito un passo furtivo un poco più avanti. Mentre indugiava, fu scosso da un grido soffocato di donna dietro di lui. Balzò oltre la porta dietro il trono e nella luce cristallina scorse uno spettacolo inatteso. Le torce erano sparite dalla grande navata esterna, ma un sacerdote era ancora nel palazzo, Gwarunga. Col suo volto perverso, contratto dal furore, stringeva per la gola l'atterrita Muriela, soffocando i suoi tentativi di gridare e supplicare e scuotendola brutalmente. «Traditrice!» Fra le labbra rosse carnose, la voce di Gwarunga suonava come il sibilo di un cobra. «A che gioco stai giocando? Zargheba non ti aveva insegnato ciò che dovevi dire? Sì, Tutmekri me l'aveva riferito! Sei tu che hai tradito il tuo padrone oppure è lui che tradisce gli amici attraverso te? Sgualtrina! Ti strapperò la testa! Ma prima...» Lo spalancarsi dei begli occhi della prigioniera, fissi sopra la sua spalla, mise in guardia l'enorme nero. «Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookouto ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B! Con Lookouto, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutorent.com.» La lasciò e si voltò di scatto, mentre la spada di Conan saettava dall'alto in basso. Il colpo lo scagliò all'indietro sul pavimento di marmo, dove restò a contorcersi nel sangue che sgorgava dalla ferita al capo. Conan si avvicinò per finirlo, perché sapeva che il movimento improvviso di Guarungua aveva fatto sì che la lama lo colpisse di piatto. Ma Muriela l'abbracciò convulsamente. «Ho fatto come mi avevi ordinato! Portami via! Ti supplico, portami via!» «Non possiamo ancora andarcene! Voglio seguire i sacerdoti e scoprire dove sono le gemme! Può darsi che nel nascondiglio ci sia altro bottino, ma tu puoi venire con me! Dov'è la pietra che avevi nei capelli?» «Deve essere caduta sul piedistallo! Ho avuto tanta paura! Quando i sacerdoti se ne sono andati, sono corsa fuori per cercarti e questo gigante era rimasto, mi ha afferrata!» «Bene, va a cercarla mentre io sistemo questa carcassa! Va! Quella gemma da sola vale una fortuna!» Muriela esitò, come se le ripugnasse la prospettiva di rientrare in quella stanza misteriosa. Poi, mentre il barbaro afferrava Guarungua per la cintura e lo trascinava nell'alcova, si decise ed entrò nella camera dell'oracolo. Conan scaricò sul pavimento il nero primo di sensi e alzò la spada. Era vissuto troppo a lungo nei luoghi più selvaggi del mondo per nutrire illusioni sulla misericordia. L'unico nemico non pericoloso era un nemico decapitato. Ma prima che potesse colpire, un urlo agghiacciante frenò la lama levata. Proveniva dalla camera dell'oracolo. L'urlo si spense in un gorgoglio soffocato e in un trepestio. Con una bestemmia, Conan si precipitò fuori dall'alcova, attraversò la pedana del trono e accorse nella camera dell'oracolo, quasi prima che il suono cessasse. Si arrestò guardandosi intorno stralunato. A quanto pareva, Muriela stava sdraiata tranquilla sul piedistallo a occhi chiusi, come se dormisse. «Cosa stai facendo? Se ti sembra il momento di scherzare!» La sua voce si spense. Il suo sguardo corse lungo la coscia candida modellata dall'aderente gonna di seta. Quella gonna avrebbe dovuto essere strappata dalla cintura all'orlo. Lui lo sapeva bene, perché era stata la sua mano a lacerarla quando aveva spogliato implacabilmente la danzatrice. Con un balzo si accostò al piedistallo e posò la mano sul corpo d'avorio e la ritrasse come se avesse toccato un ferro rovente anziché la fredda immobilità della morte. «Rom! Non è Muriela, è Yelaya!» Adesso comprendeva il frenetico urlo scaturito dalle labbra della danzatrice quando era rientrata nella camera. La dea era tornata. Zargheba l'aveva spogliata per abbigliare la simulatrice, ma adesso lei era di nuovo coperta di seta e di gemme, come la prima volta che Conan l'aveva vista. I capelli gli si rizzarono sulla nuca. «Muriela! Muriela, dove diavolo sei?» Le pareti gli rimandarono la sua voce beffardamente. Non c'erano ulteriori ingressi oltre la porta dorata e nessuno poteva essere entrato o uscito da lì senza che lui se ne accorgesse. Questo era incontestabile. Yelaya era stata riportata sul piedistallo nei pochi minuti trascorsi da quando Muriela aveva lasciato la camera ed era stata catturata da Guarungua. Negli orecchi gli echeggiavano ancora le urla di Muriela, eppure la ragazza corinzia sembrava svanita nel nulla. C'era una sola spiegazione. Se voleva respingere le ipotesi più oscure che suggerivano un evento soprannaturale, voleva dire che in quella camera c'era una porta segreta. E nell'attimo stesso in cui quel pensiero gli attraversò la mente, la vide. In quella che sembrava una grande lastra di marmo massiccio si scorgeva una fenditura verticale e da quel sottile varco spuntava un lembo di seta. Quel brandello proveniva dalla gonna lacerata di Muriela. La deduzione era inevitabile. Era rimasto impigliato e strappato quando la porta si era richiusa e la danzatrice era stata portata via dai misteriosi catturatori. Quel pezzetto di stoffa aveva impedito al pannello di collimare perfettamente col muro. Conan infilò la punta del pugnale nella fessura e fece leva col braccio muscoloso. La lama si piegò, ma era di infrangibile acciaio acbitano. La porta di marmo si aprì. Tenendo alta la spada, Conan scrutò oltre l'apertura, ma non vide presenze minacciose. La luce che filtrava dalla camera dell'oracolo mostrava una corta rampa di gradini intagliati nel marmo. Il cimmero spalancò la porta al massimo, poi piantò il pugnale in una fessura del pavimento per tenerla aperta. Cominciò a scendere la scala senza esitare. Non vide nulla e non udì nulla. Dopo una decina di gradini, la scala terminava in uno stretto corridoio che si addentrava in linea retta nell'oscurità. Si fermò all'improvviso, immobile ai piedi della scala come una statua, guardando gli affreschi alle pareti, parzialmente visibili nella fioca luce che filtrava dall'alto. Era un'arte inconfondibilmente Pelishti. Aveva visto affreschi con le stesse caratteristiche sui muri di Asgalun. Ma le scene raffigurate non avevano nulla in comune con la cultura Pelishti, eccettuata una figura umana che ricorreva spesso, un vecchio magro e con la barba bianca, dalle inequivocabili caratteristiche etniche. Sembrava che i dipinti rappresentassero varie sezioni del palazzo. Diverse scene mostravano la stanza dell'oracolo con la figura di Yelaya adagiato sul piedistallo d'avorio ed enormi uomini neri inginocchiati. E dietro la parete, nella nicchia, stava il vecchio Pelishtita. C'erano anche altre figure. Si muovevano nel palazzo abbandonato, ubbidivano ai comandi del Pelishtita e traevano cose innominabili dal fiume sotterraneo. In quei pochi secondi durante i quali Conan rimase in moto, varie frasi del manoscritto che prima gli erano parse incomprensibili balenarono nella sua mente con chiarezza agghiacciante. I frammenti di quel rompicapo si composero. Il mistero di Bit Yaken non era più un mistero e così pure l'enigma dei suoi servitori. Conan si voltò e scrutò nell'oscurità mentre un brivido gelido gli correva lungo la spina dorsale. Poi avanzò per il corridoio a passo felino e senza esitare, addentrandosi sempre più nell'oscurità via via che si allontanava dalla scala. L'aria era appesantita dall'odore che aveva già sentito nel cortiletto del gong. Nel buio più assoluto, più avanti, udì un suono, uno scalpiccio di piedi nudi, un fruscio di vesti contro la pietra. Impossibile però stabilirlo con sicurezza. Ma dopo un attimo la sua mano protesa incontrò un ostacolo nel quale riconobbe una porta massiccia di metallo scolpito. La spinse inutilmente e con la punta della spada cercò invano una fessura. Era incastrata nella soglia e negli stipiti come se vi fosse murata. Conan fece appello a tutte le forze, puntellando i piedi sul pavimento, mentre le vene gli si gonfiavano sulle tempie. Ma non servì a nulla. Neppure una carica di elefanti avrebbe potuto scuotere quella porta titanica. Mentre stava appoggiato contro il battente, udì dall'altra parte un suono che il suo udito riconobbe subito. Era un cigolio di ferro arrugginito, come una leva che stridesse nell'intercapedine. Istintivamente l'azione seguì quell'intuizione con tanta velocità che il suono, l'impulso e l'azione stessa furono in pratica simultanei. E mentre Conan arretrava con un balzo prodigioso, ci fu il rombo di una massa enorme che precipitava e uno schianto riempì il corridoio di vibrazioni assordanti. Il cimero fu investito da una pioggia di schegge. Un immane blocco di pietra riconoscibile dal suono era piombato nel punto che lui aveva appena abbandonato. Se avesse indugiato per un solo istante nel pensare o nell'agire, sarebbe rimasto schiacciato come una formica. Indietreggiò. Chissà dove, oltre quella porta metallica, era prigioniera Muriela, seppure era ancora viva. Ma lui non poteva varcare quella soglia, e se rimaneva nel corridoio c'era il rischio che cadesse un altro masso, e questa volta avrebbe potuto avere meno fortuna. Alla ragazza non sarebbe servito a nulla se lui fosse finito sfracellato. Non poteva continuare le sue ricerche in quella direzione, doveva risalire e cercare un'altra via d'accesso. Si voltò e si avviò a passo svelto verso la scala, emettendo un sospiro di sollievo quando uscì nella luce. Ma quando posò il piede sul primo gradino, quella luce venne cancellata e più in alto la porta di marmo si chiuse con un colpo rimbombante. Una sensazione di panico invase il cimero intrappolato nel corridoio buio. Girò di scatto su se stesso, levando la spada e sgranando minacciosamente gli occhi nel buio, attendendosi una carica di mostruosi aggressori. Ma dal corridoio non giungeva il minimo suono di movimento. Gli uomini che stavano oltre la porta, se erano uomini, erano forse convinti di essersi liberati di lui con la caduta del masso, che indubbiamente era stata provocata da una specie di meccanismo. Ma allora perché si era chiusa la porta lassù? Rinunciando alle ipotesi, Conan salì a tentoni i gradini, rabbrividendo al pensiero di poter ricevere una coltellata nella schiena a ogni passo, smaniando per il desiderio di annegare quell'inquietudine in una barbara furia omicida. Raggiunse la porta, spinse e imprecò con foga quando constatò che non cedeva. Poi, mentre alzava la spada con la destra per attaccare il marmo, sentì sotto la mano sinistra brancolante un chiavistello metallico che evidentemente era scattato quando la lastra si era chiusa. Con una mossa fulminea lo tirò e la porta si aprì alla sua spinta. Balzò nella camera occhi chiusi, come l'incarnazione ringhiante del furore, ferocemente ansioso di affrontare il nemico che lo perseguitava. Il pugnale era scomparso dal pavimento. La camera era vuota ed era vuoto anche il piedistallo. Yelaya era svanita una seconda volta. Erkrom, allora è davvero viva? Passò nella sala del trono sconcertato e poi, colto da un pensiero improvviso, girò dietro il seggio e scrutò nell'alcova. C'era una macchia di sangue sul marmo lucido, dove aveva scaricato lo svenuto Guarunga, ma null'altro. Il nero era scomparso, così come era scomparsa Yelaya. Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. La collera e il disorientamento confusero la mente di Conan. Non sapeva come cercare Muriela e non sapeva come cercare i denti di Gualur. Aveva un solo pensiero: seguire i sacerdoti. Forse nel nascondiglio del tesoro avrebbe scoperto qualche indizio utile. Era una possibilità remota, ma era sempre meglio che continuare a vagare senza scopo. Mentre attraversava a passo svelto la grande navata semibuia che conduceva al portico, quasi si aspettava di vedere le ombre prendere vita dietro di lui per assalirlo con zanne e artigli. Ma solo il battito concitato del suo cuore l'accompagnò nel chiaro di luna che screziava la lucentezza del marmo. Arrivato ai piedi della scalinata, si guardò intorno nella vivida luce lunare, in cerca di qualche segno che gli indicasse la direzione da prendere. E lo trovò. Alcuni petali sparsi sull'erba mostravano il punto dove un braccio o una veste aveva sfiorato un ramo carico di fiori. L'erba era stata calpestata da piedi pesanti. Conan, che tra le montagne natie aveva seguito le piste dei lupi, non trovò difficoltà insormontabili nel rintracciare i segni del passaggio dei sacerdoti kesciani. La pista conduceva lontano dal palazzo, attraverso le masse di cespugli carichi di profumi esotici, dove le grandi corolle pallide schiudevano i petali lucenti, fra arbusti verdeggianti che facevano cadere piogge di fiori al minimo tocco. E infine giunse a una grande roccia sporgente dai precipizi come un castello gigantesco, in un punto vicinissimo al palazzo e che tuttavia era quasi completamente nascosto alla vista dagli alberi, dal groviglio delle liane. Dunque l'indiscreto sacerdote di Keshia si era sbagliato quando aveva detto che i denti erano nascosti nel palazzo. La pista aveva condotto Conan lontano dal luogo dove Muriel era scomparsa, ma lui era sempre più convinto che ogni parte della vallata fosse collegata al palazzo per mezzo di passaggi sotterranei. Si acquattò fra le vellutate profonde ombre dei cespugli e studiò la grande sporgenza di roccia che spiccava in un netto rilievo nel chiaro di luna. Era coperta di strani e grotteschi bassorilievi, raffiguranti uomini e animali, nonché creature semibestiali che potevano essere dei o demoni. Lo stile era sorprendentemente diverso da quello che predominava nel resto della valle, e Conan si chiese se non rappresentasse un'epoca e una razza diverse. Forse era la reliquia di un tempo perduto e dimenticato già alla data incommensurabilmente lontana in cui gli abitanti di Alcmenon avevano scoperto la valle segreta. Una grande porta era spalancata nella ripida parete. Intorno vi era scolpita una gigantesca testa di drago, così che il passaggio pareva la bocca del mostro. La porta era di bronzo scolpito e doveva avere un peso enorme. Conan non vide traccia di serratura, ma una serie di chiavistelli sporgeva lungo il bordo del battente, indicando che esisteva un sistema per aprire e chiudere, un sistema senza dubbio noto ai sacerdoti del Keshan. La pista indicava che Gorulga e i suoi accompagnatori erano passati da quel varco, ma Conan esitava. Se avesse atteso che uscissero, probabilmente la porta si sarebbe richiusa e forse lui non sarebbe riuscito a risolvere il mistero del meccanismo. D'altra parte, se li avesse seguiti all'interno, nel frattempo avrebbero potuto uscire e imprigionarlo nella caverna. Abbandonando ogni prudenza, varcò la soglia. In quella grotta c'erano i sacerdoti, i denti di Gualur e forse anche un indizio della sorte di Muriela. I rischi personali non l'avevano mai trattenuto dal mettere in atto le sue decisioni. Per un breve tratto, la luce della luna illuminava l'ampia galleria. Più avanti scorse un fioco barlume e udì l'eco di una bizzarra cantilena. I sacerdoti non erano distanti da lui quanto aveva immaginato. La galleria sfociava in un'ampia camera, prima che la luce della luna venisse meno. Una caverna vuota, non immensa, ma dalla volta altissima e arcuata che riluceva di incrostazioni fosforescenti. Conan sapeva che era un fenomeno comune in quella parte del mondo. Creava una mezza luce spettrale, nella quale riuscì a distinguere un'effigie bestiale accovacciata su un altare e le buie imboccature di 6 o 7 gallerie che si aprivano nella sala. In fondo a quella più larga, situata direttamente dietro la statua rivolta verso l'apertura esterna, il cimero intravide un balenio di torce ondeggianti, mentre il chiarore fosforescente era fisso, e sentì che il salmodiare cresceva di volume. Si avventurò temerariamente in quella galleria e poco dopo scorse una grotta più vasta di quella che aveva appena lasciato. Non c'era tratta di fosforescenza, ma la luce delle fiaccole cadeva su un altare più grande e su un dio ancor più osceno e ripugnante, accovacciato come un rospo. Dietro l'orrida divinità, Gorulga e i suoi 10 accoliti stavano inginocchiati e battevano la fronte al suolo, cantando con voce monotona. Conan comprese perché avevano impiegato tanto tempo a giungere fin lì. Avvicinarsi alla cripta segreta dei denti imponeva un rituale complesso ed elaborato. Smaniando d'impazienza, attese che la cantilena e le genuflessioni terminassero, e finalmente i sacerdoti si alzarono e si addentrarono nella galleria che si apriva dietro l'idolo. Le torce si allontanarono ondeggiando nell'oscurità e il cimero si affrettò a seguirle. Non c'era un grande pericolo di essere scoperto. Procedeva nell'ombra come un animale notturno e i neri sacerdoti erano completamente assorti nel cerimoniale. A quanto pareva, non avevano notato neppure l'assenza di Gualurga. Giunti in una caverna di proporzioni enormi, fiancheggiata da cornicioni e gradini, ricominciarono le loro devozioni davanti a un altare ancora più grande e a un dio ancora più repellente di quelli che Conan aveva visto poco prima. Il cimero si acquattò nella buia imboccatura della galleria, fissando le pareti che riflettevano il livido bagliore delle torce. Scorse una scala intagliata nella pietra che saliva tortuosamente da un ripiano di galleria all'altro e si perdeva nell'oscurità. Sussultò all'improvviso quando il salmodiare si interruppe e i neri inginocchiati alzarono la testa. Una voce inumana scese tuonando dall'alto. I sacerdoti restarono impietriti col volto levato in uno spettrale riflesso bluastro nell'atteso bagliore di una strana luce che scaturì abbagliante dall'altissima volta e poi presa ad ardere con un'intensità pulsante. La luce investiva una delle gallerie. Un grido sfuggì dalle labbra del sommo sacerdote e fu ripreso dai suoi accoliti. In quel lampo era apparsa una snella figura bianca, ritta nello splendore della seta e nello sfaviglio dell'oro incastonato di gemme. Poi il fulgore si smorzò in una luminosità palpitante in cui non c'era nulla di distinto, e la figura snella divenne solo una vaga chiazza color avorio. «Yelaya! Perché ci hai seguiti? Qual è il tuo volere?» urlò Gorulga grigio in volto. La bizzarra voce inumana discese dalla volta, echeggiando sotto l'arcata che l'ingigantiva e la rendeva irriconoscibile. «Guai ai miscredenti! Guai ai falsi figli di Kesha! Maledetti coloro che negano la divinità! Un grido d'orrore si levò dalle gole dei sacerdoti. Nel chiarore delle torce, Gorulga sembrava un avvoltoio sgomento. Non capisco! Noi ti siamo fedeli! Nella camera dell'oracolo ci hai detto! Non credete a ciò che avete udito nella camera dell'oracolo! Tuonò la terribile voce, moltiplicata dagli echi al punto che... Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. Che una miriade di grida ripeté l'ammonimento. Guardatevi dai falsi profeti e dai falsi dei. Un demonio che aveva assunto il mio aspetto vi ha parlato nel palazzo, pronunciando una profezia menzognera. Ora ascoltate e obbedite, perché io solo sono la vera dea e vi concedo una possibilità di salvarvi dalla maledizione. Prendete i denti di Walor nella cripta dove furono riposti tanto tempo fa. Alcmen non è più sacra, poiché è stata profanata dai bestemmiatori. Affidate i denti di Gualor alle mani di Tutmekri l'ostigiano, affinché li porti nel santuario di Dagon e Derketo. Solo questo può salvare il Keshan dalla sorte decisa dai demoni nella notte. Prendete i denti di Gualor e ritornate immediatamente a Keshan. Là, consegnate le gemme a Tutmekri, catturate il diavolo straniero Conan e sguaiatelo vivo sulla piazza grande. I sacerdoti non esitarono. Battendo i denti per il terrore, corsero verso la porta che si apriva dietro il dio bestiale, con Gorulga in testa. Si bloccarono per un istante sulla soglia, gemendo e bruciandosi involontariamente a vicenda con le torce. Poi passarono e lo scalpiccio dei loro passi frettolosi si affievolì lungo la galleria. Conan non li seguì. Era divorato dal furioso desiderio di scoprire la verità su quella scena inverosimile. Era stata davvero Yelaya, come gli diceva il sudore freddo che gli imperlava il dorso delle mani? Oppure era quella sgualdrinella di Muriela che l'aveva tradito? Se era così... Prima che l'ultima torcia scomparisse in fondo alla tenebrosa galleria, il cimero salì a balzi furiosi sulla scala di pietra. Il chiarore azzurrognolo si stava smorzando. Tuttavia vedeva ancora la figura biancastra, immobile, nella galleria. Si sentì gelare il sangue nell'avvicinarsi, ma non esitò. Brandì alta la spada e torreggiò come una minaccia di morte davanti alla figura imperscrutabile. «Yelaya! Morta come sempre stata da 1000 anni! Ha!» Dalla buia imboccatura del corridoio dietro di lui balzò una forma scura, ma il precipitoso scalpiccio dei piedi scalzi era giunto al fine udito del cimmero. Conan si voltò come un felino e schivò il colpo sferratogli alle spalle. Mentre l'acciaio lucente stretto in una mano nera lo sfiorava sibilando, lui rispose al colpo con la furia di un pitone inferocito e la lunga lama diritta trapassò l'assalitore, fuoriuscendo di due spanne tra le scapole. «Ecco!» Conan estrasse la spada, mentre la vittima si accasciava sul pavimento, ansimando e gorgogliando. L'uomo si contorse per qualche istante e si irrigidì. Nella luce morente, Conan vide un corpo nero e un volto d'ebano, orrendo nel bagliore azzurrastro. Aveva ucciso Gwarunga. Si scostò dal cadavere e si voltò verso la dea. Passanti di cuoio intorno ai ginocchi e al petto la tenevano eretta contro un pilastro di pietra e i folti capelli fissati alla colonna le reggevano alta la testa. A pochi passi di distanza le cinghie erano visibili nella luce incerta. «Deve essere rinvenuto quando sono sceso nel corridoio e deve aver sospettato che ero laggiù, perciò ha tolto il pugnale e ha chiuso la porta, poi ha portato via il corpo di Yelaya per ingannare i suoi stupidi confratelli». Era lui che gridava poco fa. Era impossibile riconoscere la sua voce con gli echi causati dalla volta. E quella fiamma azzurra mi pareva di riconoscerla, infatti. È un trucco dei sacerdoti stigiani. Tutmekri deve averlo insegnato a Gwarunga. A Guarunga non deve essere stato difficile raggiungere la caverna prima dei suoi compagni. Evidentemente conosceva bene la planimetria delle caverne, per sentito dire o forse grazie alle mappe tramandate dai sacerdoti. È entrato nella grotta dopo gli altri portando la dea, ha seguito un percorso tortuoso attraverso i corridoi e le camere e ha nascosto se stesso e il suo fardello sulla balconata, mentre Gorulga e gli altri accoliti erano impegnati negli interminabili rituali. La luce azzurrognola era svanita, ma adesso Conan notò un altro barlume che proveniva dall'imboccatura di uno dei corridoi che si aprivano sul cornicione. Là in fondo c'erano altre rocce fosforescenti. La fioca luminosità costante era riconoscibile. Il corridoio portava nella stessa direzione in cui si erano avviati i sacerdoti. Conan decise di percorrerlo anziché scendere nell'oscurità della grande caverna sottostante. Senza dubbio raggiungeva una galleria in un'altra sala, che forse era la destinazione del corteo. Affrettò il passo e l'illuminazione divenne più forte via via che avanzava, finché riuscì a distinguere il pavimento e le pareti. Più avanti e in basso risuonava di nuovo il salmodiare dei sacerdoti. All'improvviso apparve nella parete di sinistra un varco profilato dal chiarore fosforescente e agli orecchi di Conan giunse un sommesso singhiozzo isterico. Il cimmero si voltò di scatto e scrutò oltre l'arcata. Era una camera scavata nella roccia viva, non una caverna naturale come le altre. Il soffitto a volta brillava di luce fosforescente e le pareti erano quasi completamente ricoperte di arabeschi d'oro battuto. Presso la parete di fondo, su un trono di granito, con gli occhi eternamente fissi verso l'arcata, sedeva il mostruoso e osceno Pteor, il dio dei Pelishtiti. Era foggiato in bronzo e gli enormi attributi virili rispecchiavano la bestialità del suo culto. Sulle ginocchia dell'idolo giaceva un'inerte figura bianca. «Che io sia dannato!» borbottò Conan. Girò sospettosamente lo sguardo nella camera senza vedere altri ingressi né tracce di una presenza e poi avanzò senza far rumore e osservò la ragazza. Le esili spalle erano scosse da singhiozzi disperati. Il volto era nascosto tra le braccia. Dagli alti bracciali d'oro che cingevano le braccia dell'idolo partivano catenelle dello stesso metallo che le imprigionavano i polsi. Conan le posò una mano sulla spalla nuda e Muriela sussultò convulsamente. Gettò un urlo e girò verso di lui il volto sfigurato dal pianto. «Conan!» La ragazza urlò il suo nome. Con uno sforzo spasmodico cercò di buttargli anche le braccia al collo, ma le catene la trattennero. Il cimmero tagliò l'oro tenero il più vicino possibile ai polsi della ragazza e borbottò. «Dovrai portare questi braccialetti fino a quando riuscirò a trovare uno scalpello o una lima. Lasciami andare adesso, dannazione! Voi attrici siete sempre troppo emotive. Raccontami cosa ti è capitato, ragazza!» «Quando sono tornata nella camera dell'oracolo, ho visto la dea distesa sul piedistallo, come la prima volta. Ti ho chiamato e ho fatto percorrere verso la porta, ma qualcuno mi ha afferrata alle spalle. Mi ha tappato la bocca con una mano e mi ha portata via attraverso un passaggio segreto nel muro. Non ho visto chi mi aveva catturata fino a quando abbiamo superato una grande porta metallica e siamo entrati in una galleria col soffitto illuminato come questa camera. Ah, allora sono quasi svenuta quando ho visto. Non sono uomini, sono diavoli! Grigi e pelosi che camminano come gli uomini e parlano una lingua che nessun essere umano potrebbe capire. Si sono fermati, come si aspettassero. E a un certo momento mi è sembrato di sentire qualcuno che cercava di aprire la porta. Allora uno di quei cosi ha abbassato una leva metallica fissata al muro e qualcosa di pesante è precipitato dall'altra parte. Poi mi hanno portata via per lunghi corridoi tortuosi e per scale buie fino a questa camera, dove poi mi hanno incatenata sulle ginocchia di questo abominevole idolo. E poi se ne sono andati. Oh, Conan, ma chi saranno?» «I servitori di Bitiaken. Ho trovato un manoscritto che mi ha rivelato diverse cose, e poi ho scoperto certi affreschi che mi hanno chiarito il resto. Bitiaken era un pelishtita, entrato nella valle con i suoi servitori dopo che il popolo di Atakmenon l'aveva abbandonata. Ha trovato il corpo della principessa Yelaya e ha scoperto che i sacerdoti ritornavano di tanto in tanto per renderle omaggio, perché già allora era venerata come dea. Bitiaken l'ha trasformata in un oracolo e la voce dell'oracolo era lui stesso. Parlava da una nicchia che aveva scavato nel muro, dietro il piedistallo d'avorio. I sacerdoti non hanno mai sospettato di nulla, non hanno mai visto né lui né i servitori, perché si nascondevano sempre all'arrivo degli uomini. Bitiaken è vissuto e morto qui, senza che il clero lo scoprisse. Crom soltanto sa per quanto tempo sia rimasto in questa valle, probabilmente per secoli. I sapienti dei Pelistiti sanno prolungare la propria esistenza per secoli e secoli. Io stesso ne ho conosciuti alcuni. Perché Bitiaken vivesse qui da solo e perché facesse la parte dell'oracolo, nessun uomo può indovinarlo. Ma credo che avesse creato l'oracolo per mantenere inviolata la città e non essere mai disturbato. Si nutriva del cibo che i sacerdoti offrivano a Yelaya e i suoi servitori mangiavano altre cose. Ho sempre saputo che c'è un fiume sotterraneo che nasce dal lago dove gli abitanti degli altopiani del Punt gettano i loro morti. Quel fiume scorre sotto il palazzo. Ci sono scale a pioli che scendono fino all'acqua e i servitori di Bitiaken vi si aggrappano e pescano cadaveri portati dalla corrente. Bitiaken ha documentato tutto sulla pergamena e negli affreschi. Ma alla fine comunque è morto e i suoi servitori l'hanno mummificato secondo le istruzioni da lui impartite prima della fine e l'hanno collocato in una grotta poco al di sotto del precipizio. Il resto non è difficile da immaginare. I servitori, ancora più longevi di lui, hanno continuato ad abitare qui, ma la prima volta che un sommo sacerdote si è presentato per consultare l'oracolo, l'hanno fatto a pezzi, perché non c'era più il loro padrone a trattenerli. Perciò da quel giorno fino a Gorulga nessuno è mai più venuto a interpellare Yelaya. Evidentemente sono loro a cambiare le vesti e gli ornamenti della dea, come avevano visto fare a Bitiaken. E senza dubbio c'è una camera sigillata dove la seta si conserva senza imputridire. Hanno rivestito la dea e l'hanno riportata nella camera dell'oracolo dopo che Zargheba l'aveva rubata. Ah, a proposito, hanno anche decapitato Zargheba e ne hanno appeso la testa al ramo di un albero. Muriela rabbrividì, ma nel contempo tirò un sospiro di sollievo. Non mi frusterà più. Almeno non da questa parte dell'inferno. Ma adesso vieni, ragazza. Guarunga mi ha rovinato tutto rubando la dea. Seguirò i sacerdoti e cercherò di impadronirmi del bottino dopo che l'avranno tolto dal nascondiglio. E tu restami vicina. Non posso passare tutto il tempo a cercarti. Ma i servitori di Bitiaken? Quello è un rischio che dovremo correre. Non so che intenzioni abbiano, ma finora non mi sono sembrati disposti a uscire per battersi allo scoperto. Vieni! Conan l'afferrò per il polso e la condusse fuori dalla camera, lungo il corridoio. Dopo un po' udirono il salmodiare dei sacerdoti e a quel canto si mescolava il cupo rombo dell'acqua corrente. La luce divenne più forte sopra di loro quando uscirono sulla balconata di una grande caverna e si affacciarono su una scena bizzarra e fantastica. Sopra di loro rifulgeva la volta fosforescente, 30 braccia più sotto si stendeva il fondo della grotta. All'estremità opposta il pavimento era tagliato da un torrente stretto e profondo che traboccava dal canale roccioso. Scaturiva dal buio impenetrabile, attraversava vorticosamente la caverna e scompariva di nuovo nell'oscurità. La superficie visibile rispecchiava il chiarore della volta. Le scure acque ribollenti scintillavano come se fossero incastonate di gemme vive, azzurro ghiaccio, rosso livido, verde brillante, in un'iridescenza sempre mutevole. Conan e la sua compagna si trovavano su uno dei cornicioni che cingevano la curva dell'alta parete e da quel sentiero un ponte naturale di roccia si innalzava in un'arcata maestosa sopra l'abisso della caverna fino a raggiungere un cornicione molto più stretto, al di là del fiume. 3 braccia più sotto, un altro arco più largo scavalcava la grotta. Alle due estremità, scale intagliate nella pietra arrivavano fino ai piedi di quegli archi. Conan, scrutando la curva del ponte che partiva dal suo cornicione, intravide un barlume di luce che non era la livida fosforescenza della caverna. Sullo stretto cornicione di fronte, nella parete, si apriva un varco oltre il quale brillavano le stelle. Ma la sua attenzione fu attratta dalla scena che si svolgeva sotto di loro. I sacerdoti erano arrivati a destinazione. In un angolo della caverna sorgeva un altare di pietra, ma non era sovrastato da un idolo. Conan non poteva vedere se la statua stava più indietro, perché il gioco della luce o la curva della parete lasciavano immerso nell'oscurità totale lo spazio oltre l'altare. I sacerdoti avevano piantato le fiaccole nei fori del pavimento di pietra, formando un semicerchio di fiamme davanti all'altare, a una distanza di parecchie braccia. Poi anche loro si schierarono a semicerchio oltre le torce, e Gorulga, dopo aver levato le braccia in un gesto di invocazione, si piegò sull'altare e vi appoggiò le mani. L'altare si sollevò, inclinandosi all'indietro come il coperchio di un baule e rivelando una piccola cripta. Gorulga infilò un braccio nel ricettacolo ed estrasse uno scrigno di bronzo. Rimise a posto l'altare, vi posò sopra il cofano e ne alzò il coperchio. Ai due ansiosi osservatori parve che quel gesto avesse liberato un fuoco vivo che pulsava e fremeva intorno allo scrigno. Con un tuffo al cuore, Conan portò la mano all'impugnatura della spada. I denti di Gualur, finalmente! Il tesoro che avrebbe fatto del suo possessore l'uomo più ricco del mondo. Il respiro gli usciva convulso dalle mascelle serrate. Poi all'improvviso notò che un elemento nuovo si era unito alla luce delle fiaccole e del tetto fosforescente offuscandola. L'oscurità si insinuò intorno all'altare, lasciando vivo solo il barlume di splendore maligno irradiato dai denti di Gualur, che divenne però ancora più intenso. I neri parevano mutati in statue di basalto e le loro gigantesche ombre si stagliavano grottescamente dietro di loro. L'altare era inondato dal chiarore e il volto sbalordito di Gorulga spiccava più nitido. Poi la luce raggiunse lo spazio misterioso dietro l'altare e lentamente, con l'avanzare della luce, divennero visibili delle figure che sembravano uscire dalla notte e dal silenzio. In un primo momento parvero statue di pietra grigia, immobili, villose, dalla forma umana e tuttavia orribilmente disumane. Ma i loro occhi erano vivi, fredde scintille di grigio fuoco gelido. E quando lo strano bagliore investì quelle facce bestiali, Gorulga urlò e arretrò, alzando le lunghe braccia in un gesto di orrore frenetico. Ma un braccio ancora più lungo scattò sopra l'altare e una mano deforme gli serrò la gola. Urlando e dibattendosi, il sommo sacerdote fu trascinato via, colpito da un pugno simile a un maglio, ammutolì all'improvviso. Si accasciò inerte e attraversò l'altare. Le cervella uscirono dal cranio sfracellato. Poi i servitori di Bit-Yaken irruppero come una marea infernale, avventandosi sui sacerdoti neri pietrificati dall'orrore. E incominciò uno spaventoso massacro. Conan vide i possenti corpi neri scagliati come pula dalle mani bestiali degli uccisori. Contro la loro forza tremenda e la loro agilità, le spade e i pugnali dei sacerdoti erano inutili. Vide alcuni uomini sollevati di peso e sbattuti con la testa contro l'altare di pietra. Vide una fiaccola fiammeggiante, stretta in una mano mostruosa, infilata inesorabilmente nella gola di uno sventurato che si dibatteva invano tra le braccia che lo bloccavano. Vide un uomo spezzato in due come un pollo e i frammenti sanguinanti lanciati attraverso la caverna. Il massacro fu breve e devastante, come il passaggio di un uragano. In uno slancio di sanguinaria follia abissale si concluse, e rimase soltanto un infelice che fuggì urlando nella direzione da cui era giunto il corteo, inseguito da un branco di orride figure insanguinate che protendevano le mani macchiate di rosso per afferrarlo. Il fuggiasco e i suoi persecutori sparirono nel buio corridoio e le grida dell'uomo giunsero sempre più fievoli e confuse. Muriela era caduta in ginocchio e stringeva le gambe di Conan. Gli teneva la guancia premuta contro la rotula e teneva gli occhi chiusi. Era una statua scossa dal terrore più abietto. Ma il cimero invece era elettrizzato. Lanciò una rapida occhiata verso il varco oltre il quale brillavano le stelle e un'altra allo scrigno che sfolgorava ancora aperto sull'altare sporco di sangue e decise di compiere un disperato tentativo. Muriela, io vado a prendere il cofano. Tu resta qui. Oh, Mitra, no! No! No! Non lasciarmi! Resta immobile, non aprire bocca! Le intimò Conan, liberandosi da quella stretta frenetica. Non scese per la scala tortuosa. Balzò da un cornicione all'altro con temeraria agilità. Quando giunse sul fondo, non c'era traccia dei mostri. Qualche fiaccola ardeva ancora, piantata nel suolo. Il chiarore fosforescente pulsava e tremolava, e il fiume scorreva con un mormorio quasi articolato, scintillando di splendori indicibili. La luminosità che aveva annunciato l'apparizione dei servitori di Bit-Yaken era svanita insieme con loro. Solo la luce delle gemme nello scrigno di bronzo brillava ancora. Onan afferrò il cofano, notandone il contenuto con un'unica occhiata avida. Strane gemme dalla forma bizzarra che ardevano di un fuoco gelido ultraterreno. Chiuse di scatto il coperchio, si cacciò lo scrigno sotto il braccio e salì di corsa la scala. Non aveva nessun desiderio di incontrare gli infernali servitori di Bit-Yaken. Li aveva visti in azione e non si faceva illusioni circa le loro doti di combattenti. Non riusciva a immaginare perché avessero atteso tanto a lungo prima di attaccare gli intrusi. Ma quale essere umano poteva intuire i movimenti e i pensieri di simili mostri? Era chiaro che possedevano astuzia e intelligenza non inferiori a quelle dell'umanità. E sul fondo della caverna giacevano le prove sanguinose della loro bestiale ferocia. La ragazza Corinzia era ancora rannicchiata nella galleria dove Conan l'aveva lasciata. Lui l'afferrò per il polso e la rimise in piedi, borbottando. «Ragazza, credo che sia il momento di andarcene!» Troppo sconvolta dal terrore per essere pienamente consapevole di quanto stava accadendo, la ragazza si lasciò guidare attraverso il ponte arcuato. Solo quando giunsero sopra il fiume, abbassò lo sguardo. Gettò un urlo di sgomento e sarebbe caduta nel fiume sotterraneo se Conan non l'avesse sorretta col braccio poderoso. Urlandone nell'orecchio un'imprecazione, il barbaro la sollevò di peso e mentre lei si abbandonava inerte, la portò oltre il ponte, fino al varco che si apriva all'estremità opposta. Senza neppure rimetterla in piedi, percorse il breve corridoio oltre l'apertura. Dopo un istante emersero su uno stretto cornicione, sul lato esterno degli strapiombi che circondavano la valle. Una trentina di braccia più sotto, la giungla ondeggiava alla luce delle stelle. Conan guardò giù e tirò un sonoro sospiro di sollievo. Sentiva che sarebbe riuscito a compiere la discesa, sebbene fosse carico delle gemme e della ragazza. Ma dubitava che anche senza ingombri addosso ce l'avrebbe fatta a salire da quella parte. Posò sul cornicione lo scrigno ancora macchiato del sangue e dei grumi di materia cerebrale di Gorulga e stava per sciogliersi la cintura e legarselo alla schiena. Quando udì un suono alle sue spalle, un suono sinistro e inconfondibile. «Resta qui, non ti muovere!» intimò alla giovane Corinzia. Sguainò la spada e si insinuò nella galleria scrutando nell'interno della grotta. A metà del ponte scorse una figura grigia e deforme. Uno dei servitori di Bit-Yaken era sulle sue tracce. Senza dubbio, il mostro li aveva visti e li stava seguendo. Conan non esitò. Forse era più agevole difendere l'imboccatura del corridoio, ma doveva eliminare in fretta l'avversario prima che ritornassero gli altri servitori. Il mostro non era una scimmia e neppure era un uomo. Era un orrore generato nelle misteriose giungle senza nome del sud, dove strani esseri brulicavano nella fetida putridudine e l'uomo non dominava, e dove i tamburi rullavano in templi che non avevano mai conosciuto il passo di un piede umano. Come avesse fatto il Pelishtita a diventare il loro signore al prezzo dell'eterno esilio dall'umanità, era un mistero bestiale cui Conan preferiva non pensare, anche se ne avesse avuto il tempo. Uomo e mostro si incontrarono sul ponte più alto. 30 braccia più sotto turbinava furiosa l'acqua nera. Quando l'orrida figura dal grigio corpo butterato e dalla faccia d'idolo inumano torreggiò davanti a lui, Conan colpì come una tigre ferita, concentrando nel colpo ogni grammo di disperata di energia. Il fendente avrebbe tagliato in due un corpo umano, ma le ossa del servitore di Bit-Yaken sembravano di acciaio temperato. Tuttavia, neppure l'acciaio poteva resistere completamente a quel colpo furioso. Le costole e la clavicola si schiantarono e il sangue fiottò dallo squarcio. Non ci fu un tempo per un secondo fendente. Prima che il cimero potesse levare di nuovo la spada o ritrarsi d'un balzo, un braccio gigantesco scattò, scagliandolo dal ponte come una mosca. Mentre Conan precipitava, il rombo del fiume risuonò ai suoi orecchi come un rintocco funebre. Ma contorcendosi, il cimero piombò attraverso il ponte inferiore. Per un attimo agghiacciante barcollò, sul punto di perdere l'equilibrio, e poi si agganciò con le dita all'orlo e si inerpicò al sicuro, continuando a stringere la spada con l'altra mano. Mentre si rialzava, Conan vide che il mostro, perdendo sangue a fiotti, correva verso l'estremità del ponte, deciso a scendere la scala che collegava i due archi per riprendere il duello. Sul cornicione il mostro si arrestò e Conan vide Muriela che, stralunata e con lo scrigno delle gemme sotto il braccio, stava all'imboccatura del corridoio. Urlando rabbiosamente di trionfo, il mostro la sollevò con un braccio, afferrò il cofano con l'altra mano quando lei lo lasciò cadere, si voltò e avanzò pesantemente sul ponte. Conan imprecò e corse nella stessa direzione. Non credeva di riuscire a salire la scala che portava al ponte più alto in tempo per bloccare l'essere prima che si tuffasse nei labirinti dalla parte opposta. Ma il mostro stava rallentando, come un meccanismo a orologeria quasi scarico. Il sangue fiottava dal terribile squarcio al petto, barcollava come ubriaco. All'improvviso incespicò, ondeggiò, si rovesciò sul fianco e precipitò a capofitto. La ragazza e lo scrigno delle gemme sfuggirono alle mani snervate e l'urlo di Muriela echeggiò più forte del mugghiare delle acque sottostanti. Conan si trovava quasi esattamente sul punto dal quale era caduto il mostro, che urtò di striscio l'arco inferiore e rimbalzò via. La ragazza, contorcendosi, riuscì ad aggrapparsi, mentre il cofanetto piombava sull'orlo del ponte accanto a lei. Muriela era finita da un lato rispetto a Conan e lo scrigno dall'altro. Erano entrambi alla distanza di un braccio. Per una frazione di secondo il cofanetto vacillò sull'orlo e Muriela si aggrappò con una mano, tenendo il volto levato disperatamente verso Conan, gli occhi dilatati dalla paura della morte, le labbra socchiuse in un grido d'angoscia. Conan non esitò, non guardò neppure il cofanetto che racchiudeva la ricchezza di tutta un'epoca. Con una prontezza che avrebbe fatto sfigurare il balzo di un giaguaro affamato, scattò, afferrò il braccio della ragazza nell'istante in cui le dita le scivolavano dalla pietra levigata e la issò sul ponte con uno strattone violento. Lo scrigno si inclinò e cadde nell'acqua, 30 braccia più sotto, dove era già sparito il corpo del servitore di Bittiaken. Uno spruzzo e un getto di spuma segnarono il punto dove i denti di Gualur erano spariti per sempre alla vista degli uomini. Conan non guardò in basso. Attraversò di corsa il ponte e salì a balzi la scala, trasportando la ragazza esanime come se fosse una bambina. Un orribile ululato lo indusse a guardarsi indietro mentre raggiungeva l'arco superiore. Vide gli altri servitori che riaffluivano nella caverna con le zanne in fuori sgocciolanti di sangue. Salirono di corsa la scala che portava da un ripiano all'altro, gridando ferocemente. Ma il cimmero si caricò senza cerimonie la ragazza sulla spalla, si precipitò nel corridoio e scese dagli strapiombi con l'agilità di una scimmia, balzando da un appiglio all'altro con fretta temeraria. Quando i musi bestiali si affacciarono dall'apertura, scorsero il cimmero e la ragazza che scomparivano nella foresta ai piedi della cinta di roccia. «Bene!» disse Conan, rimettendo in piedi Muriela quando furono al riparo delle fronde. «Adesso possiamo proseguire con più calma. Non credo che i mostri ci seguiranno fuori dalla valle. Del resto ho un cavallo legato presso una fonte qui vicino, se i leoni non l'hanno divorato». «Per i diavoli di Crom! E adesso perché stai piangendo?» Muriela si coprì con le mani il volto rigato di lacrime e singhiozzò. «Ti ho fatto perdere le gemme! È stata colpa mia! Se ti avessi ubbidito e fossi rimasta fuori, il mostro non mi avrebbe vista! Avresti dovuto prendere le gemme e lasciare che io precipitassi!» «Sì, credo di sì! Ma lascia perdere, mai preoccuparsi dell'irrimediabile, e smettila di piangere, hai capito? Ah, così va meglio, andiamo adesso!» «Vuol dire che mi terrai con te? Mi porti con te, davvero?» «E cos'altro dovrei fare?» Conan la squadrò con aria d'approvazione e sogghignò, fissando la gonna strappata che rivelava un'abbondante estensione di rose e curve tentatrici. «Un'attrice come te può farmi comodo. È inutile adesso ritornare a Keshia. Ormai non c'è più nulla che mi interessi. E andremo nel punte. Gli abitanti di quel regno venerano una donna d'avorio ed estraggono l'oro dai fiumi con cesti di vimini. Dirò loro che il Keshan sta tramando insieme a Tutmekri per asservirli. E questo è vero. E che gli dei mi hanno inviato per difenderli in cambio di un ricco carico d'oro. Se riuscirò a introdurti nel tempio e a scambiarti con la loro dea d'avorio, gli porteremo via anche i denti!» Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, le gemme di Gwalior. Grazie per l'ascolto.